Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek. Il videogioco, oramai da anni, sta cercando di emergere come forma espressiva e di intrattenimento con uno spessore narrativo elevato. Questo tentativo di nobilitare l'arte videoludica, aumentandone profondità e dignità, è passato per tantissimi esperimenti più o meno riusciti. Forse il momento in cui un'opera raggiunge un livello adeguato è quando arriva all'anima di una persona. Molti, durante questo periodo di evoluzione, si sono chiesti: si può piangere per un videogioco? Ci si può interrogare sul senso, il significato inteso o interpretato come alla fine di un film? Può un gioco con un setting così ripetuto e abusato lasciare un segno profondo dentro di noi? Sarà la grande tecnica, sarà il fatto che bisogna interagire, sarà il trasporto audiovisivo o la qualità dei dialoghi. Ma si può dire che The Last of Us parte seconda merita di essere ricordato come un classico dell'evoluzione videoludica? Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. E carissimi amici di Runtime Radio, bentornati dopo questa bellissima sigla che a me piace tantissimo, mi casa, mi prepara proprio alla trasmissione in una maniera incredibile, anche se la domanda che ci facciamo quando diciamo siamo tornati è: ma dove siamo andati? Carlo Burigana! Ciao a tutti, buonasera a tutti, è un grande piacere essere qua. E ritornare, ogni tanto ritorni. E ritornare, sì, ogni tanto si faccio le mie apparizioni. Carlo Burigana, lo ricordiamo per quelle quattro persone che non lo sanno: sound designer, ovviamente membro di IPN a suo tempo, Runtime Radio, ha costruito con noi una parte importante della storia di ideologia videoludica, di videoludica, e adesso insomma piano piano insomma si insinuerà anche in Ludico Forum, e ovviamente l'autore di Passione Sound Design, che era quel podcast tra l'altro rimasterizzato che andava insomma nei nostri feed, dove lui in un quarto d'ora, 20 minuti ci raccontava il sound design di un videogioco. Tra l'altro oggi nello streaming di runtimeradio.it, che sapete è diventata oramai ufficialmente una web radio, è andata la puntata proprio su The Last of Us, il primo The Last of Us, e infatti oggi ci hanno scritto degli ascoltatori chiedendo delle cose: ma potete contattare Burigana per sapere se, per sapere cosa? E quindi vabbè, Carlo Burigana è con noi, quindi stasera se venite in chat potete chiedere tutto quello che è, perché proprio un mese risparisce a seconda dei carichi esatto. Di lavoro dei Disney e via dicendo, insomma, quindi esatto. Carlo, bentornato. Posso fare una piccola anticipazione per questa sera, gli appassionati, se così si possono definire comunque gli ascoltatori, gli affezionati, ecco, di Passione Sound Design. Questa sera ci sarà una sorta di tentativo di un Passione Sound Design live. Quindi è una cosa particolare, vediamo se funziona, e così possiamo vedere se poter eventualmente pensare di farlo a livello seriale. Di ribadirlo, benissimo. Salutiamo Cuciniere in chat, che ovviamente è già venuto. Aspetta Cuciniere prima di staccare, perché so che tu il gioco non l'hai finito. Abbiamo Valerio Valenti, anche detto Ciriola Let's Play. Ciao! Buonasera a tutti, buonasera. Grande Valerio, andate su YouTube, cercate il suo canale, Ciriola Let's Play, anzi Ciriola LP o Let's Play, non mi ricordo adesso, c'è un momento di... LP è proprio come lo trovi scritto, okay, sì. Esatto, quindi andate, iscrivetevi, attivate la campanella e seguitelo, perché come abbiamo già detto nella puntata in cui è stato precedentemente ospite, fa questi gameplay molto approfonditi, molto narrativi. Ecco, questa è la cosa che a me mi ha colpito e che poi mi ha fidelizzato sul suo canale. E quindi vabbè, poi dopo avremo modo insomma di approfondire. Salutiamo invece un altro ospite che tra l'altro mi scrisse mesi fa forse anche l'altro anno, diciamo, non mi ricordo quando, dicendomi appena finito il gioco, appena finito, non mi ricordo quando, sì, in effetti dicevo, però mi raccomando, quando farete la puntata su The Last of Us mi dovete invitare. E io ti chiamo, come ti chiami? Oppure ti devo chiamare col nick, non lo so come. No, come mi chiamo? Ok, Enrico Seu, ciao, benvenuto. Ricordiamo insomma che lui fa parte della grande brigata, insomma, di New Game Plus Italia. Insomma, andate a cercare anche il loro podcast, iscrivetevi, fate tutto, insomma, e ascoltateli, che è la cosa più importante. Ciao Enrico, benvenuto. Ciao Simone e ciao a tutti gli ascoltatori di Runtime. Noi ogni tanto ci incrociamo nei podcast come si dice, a inviti alterni, insomma, diciamo così. Eh sì, sei venuto da noi in intrappolati. Intrappolati, carino, sì, ho ancora la tazza, quindi ci faccio colazione la mattina, insomma, va bene. Allora ragazzi, io ho detto, perché adesso iniziamo a parlare di questo argomento, però ho detto che facevo una dedica a Cuciniere dallo Spaccio Profondo, il nostro ascoltatore, e che poi probabilmente lui staccherà, perché insomma non faremo intenzionalmente degli spoiler, però se dobbiamo parlare di questo gioco, di The Last of Us e di quello che, della parte 2 e di quello che ci ha assegnato, chiaramente è un po' difficile evitare di fare spoiler. Ci proveremo, però insomma vogliamo essere liberi di poter parlare liberamente, quindi chi ci ascolta in questo momento e deve ancora finire il gioco è avvisato, insomma non vi conviene. Io faccio questa piccolissima dedica proprio a lui, perché penso che insomma, come tanti di noi, è rimasto legato poi a quello che molti considerano un po' il personaggio principale, anche se poi diciamo che la seconda parte di The Last of Us ha cambiato un po' il teorema, lo schema, il meccanismo, anche non soltanto dal punto di vista narrativo, ma anche dal punto di vista proprio dei punti di vista, che chiaramente si sono estesi, sono allargati, però chiaramente chi viene dall'origine di questa storia non può non rimanere legato a Joel, insomma. I surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Bene, questa è dedicata anche a mia moglie, che è un amante dei Pearl Jam, insomma, quindi però alla fine comunque insomma questa canzone l'avrò sentita centinaia di migliaia di volte, fino ad averla odiata, fino a questo giorno, al giorno in cui poi l'ho ritrovata lì, anche se poi lo sapevamo insomma che sarebbe successo. Allora io inizierei da Valerio a questo punto, perché mi interessava. Attenzione, prego. Attenzione, nel senso, attenzione, non me l'aspettavo. Ok, no, inizio da te, perché in realtà prima di dare una scaletta, un senso a questa puntata, io vorrei partire proprio un po' a bomba. Cioè, hai finito The Last of Us, quindi che cosa, la tua opinione? Prego, prego cuciniere, è stato un piacere, lo sai che l'ho fatto con affetto. Vai, scusa Valerio. The Last of Us 2 ha lasciato sicuramente una bomba emotiva che ha una sua eco anche a mesi di distanza. Mi ha creato un profondo conflitto con i personaggi e anche una profonda empatia. Si sono create tante emozioni diverse e alla fine di tutto mi è rimasto comunque la sensazione maggiore, è stato un grande vuoto, direi, e non tanto per quello che ti fa sentire, no? Dice, ho appena finito un grande gioco e mi mancherà, ma è proprio un vuoto che è nato dall'aver capito quelli che io chiamerò errori dei personaggi, e aver empatizzato con loro e aver capito che si sono ridotti davvero alla frutta per tantissime cose. E questo mi ha fatto riflettere, mi ha fatto riragionare su tante scelte dei vari personaggi, di quelli che poi, insomma, il grosso, diciamolo, sono 3 giorni di gioco, poi ci sono altre parti, ma il grosso sono 3 giorni, no? Di quante cose possono accadere in 3 giorni? E questo gioco ce lo fa capire molto bene di quanto si può essere emotivi, di quanto si può essere presi dalle emozioni più forti nel bene e nel male, e ce lo fa vivere tutto. Questo ho fatto un'introduzione ancora molto vaga, sì, ancora sì, molto no, spoiler free. Eh sì, è quello che... sentiamo Enrico. Stesso punto di... cioè, nel senso, cioè, hai finito il gioco, qual è la tua emozione, la tua sensazione? Cioè, anche un'opinione, cioè, nel senso, ho finito The Last of Us, cosa... mi è piaciuto, non mi è piaciuto, mi ha addolorato, mi sono divertito. Allora, direi che mi ha abbastanza sconvolto e mi ha ancora di più fatto capire che il videogioco può e deve trattare anche di temi potenti, come, adesso non dico niente per spoilerare, però come quelli che vengono trattati appunto in questa trama. Carlo? Ma guarda, sai, okay. Io non so, ho emozioni contrastanti sostanzialmente. È un gioco che mi ha stupito molto tecnicamente, mi ha colpito anche fisicamente, proprio dal punto di vista narrativo, perché comunque è un po' una discesa nell'inferno ed è un po' un raddoppiamento di eventi, capito? Cioè io faccio una cosa a te, tu me ne fai una a me più cattiva, allora io te ne devo fare un'altra a te ancora più cattiva e viceversa e via così, insomma è una sorta di circolo vizioso di malvagità umana che non ha fine sostanzialmente. E la fine, ecco, ho letto un po' di pareri in giro, mi ricordo al tempo quando l'ho finito, di gente che si era anche molto commossa e tutto il resto. Io, come sul primo, io non sono riuscito a commuovermi, lo dico anche con un po' di stupore, perché di solito io sono uno che coi giochi si commuove, per dire. Però questo gioco più che altro devo dire che è stato così sgradevole dal punto di vista appunto della sua rappresentazione, sgradevole però ovviamente da un, diciamo, in senso positivo, ecco, se così si può definire, un senso positivo la sgradevolezza nella rappresentazione dei suoi personaggi e dell'umanità di questi personaggi, che mi ha lasciato, devo dire, molto molto così, molto spiazzato. Grandissima esperienza da ogni punto di vista, sia dal punto di vista visivo, sonoro e narrativo, e così mi ha lasciato un po' orfano, devo dire. Allora io devo dire mi ha lasciato esattamente come doveva lasciarmi, quindi in questo senso. Beh, le intenzioni secondo me di un gioco che sono arrivate proprio dritte al punto, secondo me, da quel punto di vista, ma adesso ci arriviamo. Diciamo, tu non c'eri, Carlo, quando noi nelle primissime puntate del primissimo Dietrologia Videoludica dedicammo un'intera puntata a The Last of Us, il primo, chiaramente. Sono passati quanti anni? 6 anni? 5 anni? Non mi ricordo quanti anni sono passati dal primo The Last of Us. Parecchi. Forse anche 6, forse, adesso non ricordo. Comunque sono passati tantissimi anni e noi con tutto il team, quando c'era ancora Marco, Giuseppe, Luigi Marrone, no? E facemmo tutta la puntata pensando a quanto questo gioco fosse una sorta di pietra miliare, no? E oggi, guardando il secondo, ci rendiamo conto che in realtà poi alla fine è passato non una generazione, ma sono passati eoni praticamente, segnando un ulteriore step in avanti da questo punto di vista, non solo guardandolo dall'aspetto tecnico, ma guardandolo anche dal punto di vista proprio anche narrativo, no? Perché se The Last of Us è una storia che, al di là di chi non piace, no? E questo voglio l'opinione di tutti su questa cosa, è una storia potenzialmente realistica, non c'è la figura cristologica, la figura salvifica, non c'è redenzione, non c'è tutto quel meccanismo morale che c'è sempre nella narrativa americana, no? O anglosassone in generale. E in realtà sono tutti colpevoli e nessuno si salverà da questo punto di vista, no? E questo concetto, che era già presente nel primo, è stato esteso all'ennesima potenza nel secondo, perché ci ha portato a vivere nelle teste e nel cuore di chi era da una parte e chi era dall'altra, che è la cosa. Inizialmente può sembrare, Valerio, stridente sta cosa, perché tu comunque, se hai empatizzato all'inizio con i personaggi che conoscevi, hai odiavi tra virgolette i personaggi che non conoscevi, e il fatto di entrare, diciamo, anche nella loro esistenza, questa cosa all'inizio è un po' disorientante, poi in realtà ti apre, no? Questo ti apre un nuovo punto di vista. È un meccanismo sicuramente che aiuta le persone, secondo me, che di natura sono meno empatiche, perché ci sono vari gradi di empatia che ognuno di noi naturalmente possiede, e non tutti hanno, se vogliamo, la delicatezza o anche la considerazione di mettersi sempre in ogni situazione nelle scarpe altrui. The Last of Us 2 un po' ci ha forzato la mano, e secondo me in una maniera veramente magistrale da questo punto di vista, ci ha forzato la mano nel calarci nei panni di persone che inizialmente appunto potevamo odiare, ma magari no, ma comunque persone con cui non eravamo riusciti a avere lo stesso grado di empatia che si aveva, chiamiamola per ora, ancora dall'altra parte. E secondo me quello è stato una mossa davvero davvero narrativamente di un impatto devastante, e lo dico io che mi considero in realtà una persona molto empativa e molto empatica, pardon. Cioè anche ragionando, io sono una persona che adesso, per chi non mi conosce, faccio l'espresso YouTube, e tendo quando mi immedesimo in un personaggio a fare tutte considerazioni, diciamo, in prima persona, cioè proprio io, Ellie. Parliamo di Ellie, che è un personaggio palese. Io giocavo come Ellie. Trovarmi come Abby è stato molto diverso, ed è stata un'esperienza molto profonda che ho vissuto ancora più intensamente. Ed è stata una cosa che ho davvero apprezzato e che mi ha fatto molto, molto, molto riflettere, in realtà. Assolutamente. E Enrico? Guarda, io aggiungo solo che sì, a me è fatto un po' strano, perché secondo me poi sono stati un po', tra virgolette, bastardelli, nel senso che per tutta una parte di gioco io ho giocato con Abby, però non dico che mi desse fastidio, però era, visto quello che ha fatto, per me è stato un po' pesante come scelta. Però una cosa interessante, anche parlando possiamo spoilerare o no? Vabbè, se iniziamo con garbo. Allora, una cosa che appunto, questa che ti ho appena detto, giocare con Ellie, visto che, spoiler, dopo un paio d'ore di gioco uccide Joel, che per me era un personaggio incredibile, per me è stato un po' pesante dover giocare con lei, lo ammetto. Però poi parlando anche confrontandomi con degli amici, per loro era il contrario, perché visto il finale del primo Last of Us, loro odiavano un po' Joel, perché Joel comunque è un personaggio veramente, secondo me, incredibile come scrittura e anche per quello che ha fatto. Non so se possiamo approfondire liberamente, nel senso che alla fine del primo della Last of Us lui fa una scelta potentissima. E puoi essere d'accordo con lui oppure puoi condannarlo, e questa cosa, sia a livello di trama che empatia col personaggio, secondo me si è trasferita nel secondo capitolo. Indubbiamente, Carlo, è difficile parlare di The Last of Us senza parlare del finale, ma in generale del personaggio fulcro, sebbene diciamo che l'elemento chiave universale di The Last of Us è Ellie, però è vero che comunque Joel è stato l'uomo, la persona che ha dato il via a questo racconto e che ha creato anche una transizione, ed era un personaggio controverso, no? E da questo punto di vista anche realistico, ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, al fatto che non c'è la figura cristologica, non c'è redenzione, non c'è perdono, non c'è compassione, se non per le cose che tu senti, cioè anzi che loro, o in quel caso Joel, sentiva parte della sua vita, no? Tant'è che Joel fa una scelta, come dice Enrico, nel finale della prima storia, che è una storia e che è una scelta condannabile, condannata, che poi in qualche maniera una condanna che lui si porta dietro, però è una scelta umana, non giusta, non sbagliata, perché qui noi purtroppo siamo abituati sempre per questo tipo di narrative a ragionare per schemi. Qui i schemi sono stati rotti, cioè non c'è il giusto, non c'è lo sbagliato, c'è la sua scelta, che è probabilmente una scelta che sarebbe stata diversa per un'altra persona, o probabilmente tutti avremmo fatto la stessa scelta. Non è facile, no, entrare in questo discorso, parlando di Joel, che poi fondamentalmente era un assassino, era un trucidatore, era una bestia, cioè fondamentalmente lo era, un mercenario, era un mercenario, ma poi lo era già prima, cioè nel senso, magari non era un assassino prima, ma era comunque una persona che viveva già borderline, Carlo. Quindi diciamo, questa figura così umana, così scritta, che rompe gli schemi, tu come ci sei trovato tra il primo e il secondo? Perché poi con te non abbiamo mai parlato di questa cosa, perché non c'eri tu, mi sa, ancora quando... Sì, probabile, infatti. Ma come dicevo prima, appunto, essendo un racconto estremamente umano, e come giustamente dicevi tu, e come dicevo sempre io prima, insomma, è una rappresentazione, diciamo, della parte più... forse dell'aspetto più rettile, se vogliamo, dell'essere umano, quello della sopravvivenza a ogni costo, e diciamo anche prevaricando gli altri invece di creare comunità, no? Di comunque di in qualche modo fare una sorta di si salvi chi può, diciamo, anche tutte queste comunità che il gioco ti fa vedere, in cui le persone si aiutano, collaborano, eccetera. È un po', come dire, una bella facciata che però nasconde poi nei meandri quelli che sono i reali sentimenti delle persone. E in particolare, ecco, abbiamo questa medaglia divisa in due facce, che è Ellie e Abby, che sono due personaggi assolutamente complementari. E poi c'è Joel, come giustamente dicevi tu, che comunque era il capostipite del gioco precedente, che ha subito questa incredibile evoluzione, se vogliamo, anche un po' già, e questo già dal, diciamo, dall'ultima parte del primo videogioco. Lui subisce questa sorta di così addolcimento del suo carattere, no? Comincia a diventare un po' paterno nei confronti di Ellie, e quando lei invece ha questa sorta di rifiuto di remissione, insomma, nei suoi confronti, per cui è un po', ed è esattamente un po' quello che succede, e in questo sono stati estremamente abili, insomma, nel replicare a livello diciamo narrativo e a livello videoludico quello che poi succede anche un po' nelle coppie, no? Se ci pensate, senza dover arrivare a fare accoltellate o a sparare alla gente, però in generale in una coppia magari c'è una delle due parti che cerca di più l'altra, e l'altra magari che fugge, mentre poi avviene il contrario, e la persona che prima fuggiva si accorge che prima aveva in qualche modo ha creato un danno verso l'altra persona, e quindi cerca di riparare. C'è tutto un meccanismo così, e questo meccanismo è stato replicato ovviamente in uno scenario estremamente drammatico, estremamente terrificante, insomma, per tutta una serie di cose. Joel poi ha questa ulteriore metamorfosi nel secondo capitolo, in cui in qualche modo scopre le sue carte verso di Ellie, e cerca un po' la redenzione per quello che secondo lui è un peccato verso di lei, ma non è un peccato verso di lui, il fatto di aver scelto comunque di avere lei vicino e di non sacrificarla per una possibile cura per tutta l'umanità. E questa ovviamente è un'altra dinamica estremamente umana, e però poveraccio, insomma, avrà la peggio. Purtroppo, diciamo, questa, non so se anche voi avete avuto questa stessa impressione quando il gioco era stato annunciato all'inizio, prima di tutta la furia degli spoiler che c'è stato, dei filmati su YouTube che poi sono stati censurati, cose sul fatto comunque che Joel era un po' un personaggio in qualche modo un po' bollito, fra virgolette, e per cui diciamo questa morte di Joel era un po' una io avrei fatto la stessa cosa, se l'avessi scritto io avrei fatto la stessa cosa, forse. Però vi faccio solo una, e vai. Poi chiudo ovviamente, prego. Solo io. Vi faccio solo notare una cosa, tra l'altro, e in questo ritorniamo all'abilità famosa di Naughty Dog, però stavolta diciamo è un'abilità molto paracula. Sul trailer, sul primo trailer, che non quello in cui c'è Ellie che suona la chitarra, proprio in cui ci sono delle scene in qualche modo giocate, no, eccetera eccetera, dove si capisce che in qualche modo succede qualche cosa, cioè che Ellie subisce una perdita grave e per cui decide di vendicarsi. Sì, vabbè, in infatti trailer lì, sì. A un tratto c'è Ellie che vede questi mercenari sullo sfondo, eccetera eccetera, prende il coltello fra le mani e va, e a un certo punto c'è una mano che la ferma, lei si gira e c'è uno stacco e si vede Joel, per cui tutti, capito, abbiamo pensato, ah, figata, allora, che ne so, magari lei perde, che te posso dire, la compagna, no, perché Ellie c'ha questa relazione con questa ragazza, e magari, che ne so, perde la compagna e quindi, capito, vuole uccidere tutti, e Joel invece la mitiga, magari vanno insieme in esplorazione, cose, per cui all'inizio io credo che un po' ci sia stato un po' questo sospiro di sollievo sul fatto, ah, figata, allora magari Joel non muore, anche se tutti un po', magari penso io, se l'aspettavano. Beh, diciamo che il trailer è paraculo, perché chiaramente la motivazione dell'odio, della rabbia di Ellie poteva essere solo una cosa importante. Infatti qui prendo spunto da quello che dici te, che poi ovviamente Valerio estenderà, e aggiungo anche un'altra cosa. Quando parlavo di redenzione, di perdono, no? Valerio, secondo me questa storia è umana, perché se leviamo l'Apocalisse, è una storia che è capitata, io auguro sempre a poche persone, ma è una storia che è capitata a tanti, il fatto di non avere la possibilità di chiudere una situazione, di non poter essere perdonati o di non poter perdonare. Può essere tra un padre e un figlio, può essere tra una coppia, può essere in tutte quelle situazioni dove ci sono rimaste quelle cose in sospese che condanneranno entrambi. Uno perché purtroppo muore, e l'altro è quello che rimane, che sa di non aver perdonato e sa che non potrà più farlo. E questo secondo me accresce ancora di più poi alla fine il realismo di una storia del genere, perché è credibile. È una storia che può aver toccato direttamente l'esperienza di alcuni di noi, e è il motivo fondamentalmente per cui una storia scritta in questo modo ci rimane impressa, è perché estrapolandola da quello che è il suo contesto narrativo, il suo setting e tutto quanto, comunque rimarrà sempre attuale, rimarrà sempre presente, rimarrà sempre qualcosa con cui ci si potrà, insomma, rispecchiare. Ed è stato fatto, come ho detto anche in precedenza, come anche voi avete fatto notare, fatto strabene, nel senso che una cosa così ti ci ritrovi, o perché l'hai vissuto in qualche maniera, o perché lo hai comunque già in qualche modo visto in qualcuno che conosci, in qualcuno che hai visto in film, libri, ci si riconosce, sono le emozioni forti, le emozioni di questo tipo sono cose che rimangono, riecheggiano dentro di te. E per ricollegarmi al discorso di Joel, in questo caso, Joel è il perno di tutto. Per quanto Ellie sia la protagonista, tutto ruota intorno a Joel, almeno per come l'ho vissuto io. Non dico che sia corretto, ma per come io l'ho vissuto è tutto su Joel. Sia quando giocai il primo The Last of Us, in cui io, ovviamente, noi siamo Joel, quindi... Ma anche per tutte le ripercussioni, per tutti i rippling, mi viene a dire, comunque tutte quelle che sono proprio le onde che mano a mano si allargano nella trama, è tutto nato da Joel e dalla persona eccezionale e terribile che era, perché poi sì, voi avete più o meno fatto capire che Joel insomma era un brigante, cioè, ma si lascia intuire che possa aver fatto di tutto, potrebbe anche aver fatto stupri, nel senso ci sono proprio, cioè è stato un brigante, cioè ha fatto delle cose terribili, poi ha preso la strada buona, che è quella che fondamentalmente noi abbiamo visto, cioè noi abbiamo visto la parte in cui Joel si rende conto che ha un cuore dopo che l'aveva perso 25 anni prima, ormai quant'era? 20-25 anni prima l'aveva perso, gli avevano ucciso l'anima, e poi allora la stava ritrovando, e noi abbiamo assistito a questo percorso che è stato brutalmente interrotto. Ed è stato interrotto questo percorso, fra l'altro fra Joel ed Ellie, in un momento in cui poi, grazie anche a vari flashback durante il gioco, noi capiremo che il rapporto era molto complicato fra Joel ed Ellie. Non è che Ellie ha detto, oh grande, sono viva, no? Oppure semplicemente, ah, dovevi lasciarmi morire. Era più complicato. Era molto più complicato. E tutto quello che c'era, quello che acquistavi, diciamo, alludendo, Simone, il fatto che quando si creano dei grandi conflitti, si crea una vera e propria tensione. Questo diceva anche Carlo. Cioè, una fortissima tensione che stava per allentarsi, cioè noi percepiamo che il rapporto fra Joel ed Ellie in realtà stava arrivando a un punto in cui questo eterno rincorrersi stava invece arrivando a una sua naturale conclusione, si stavano per dire finalmente quel rapporto non tanto padre figlia, magari stava diventando qualcosa di un po' più distaccato, ma pacifico, sereno, si stava creando quasi uno stato di quiete. Zack è stato interrotto in una maniera che in realtà sì, secondo me alla fin fine c'è chi ha sperato grazie ai trailer o meno, ma tutti ci aspettavamo che Joel sarebbe passato a peggior vita, perché di migliore non lo so, e quello ha costruito questo circolo immane di odio e vendetta che è totalmente sfuggito di mano alle protagoniste. Sì, ma in generale poi amplificato dal contesto, no? Quello è la miccia che incendia tutto, cioè tutto quello che è post-apocalittico, a me, io l'adoro, io nasco da amante del post-apocalittico, zombie e quant'altro, ma anche non confondiamoci, io, The Last of Us non sono zombie, sono poi agenti della rabbia. Vabbè, però il contesto, il concetto è sempre quello poi fondamentalmente. Perché è la cosa che, cioè, qual è il vero lavoro? Adesso parliamo, diciamo, in generale degli zombie. Non ne frega niente a nessuno se andiamo a vedere le cose serie di trama, che lo zombie ti ammazza e ti trasforma. È quello che vivere in una condizione del genere, dove ogni secondo potrebbe essere l'ultimo, porta le persone a fare. Esaspera le situazioni in maniera talmente forte, che poi le emozioni che ti riesci a vivere immedesimando nei personaggi sono estremamente più forti, ed è questo è sempre di forte impatto. Beh, diciamo che io non comprendo e sono d'accordo al 100% con questa tua visione, però non entrerei poi in questa questione, perché poi dopo dovremmo iniziare su quello che rappresenta un po' la metafora del mondo zombie con lo specchio dell'uomo, no? Rispetto a se stesso. Era più ampio, assolutamente, no. Quindi, hai ragione. Quindi il discorso è, però mi è piaciuto moltissimo quello che tu hai detto, infatti adesso rimbalziamo da Enrico, perché alla fine quello che io ho notato, come diceva anche giustamente Valerio, è che questo rapporto, che comunque in qualche maniera si stava trasformando per ovvie ragioni, anche perché lei stava crescendo, anche perché lei era rimasto questa cosa dentro, no? Come diceva lui, non è ti odio perché non hai salvato l'umanità, ti voglio bene perché mi hai salvato la vita, è uno spettro infinito probabilmente di emozioni che ha incrinato e ha contribuito a incrinare un rapporto che invece lui necessitava, perché lui comunque nel trovare poi questo legame indissolubile con lei aveva quasi trovato una sorta di redenzione sul senso di colpa, la morte della figlia e tutto quanto, no? Cioè Joel all'inizio rifiuta Ellie, no? Cioè lui dice, tu non sei mia figlia, non mi romper cazzo, fondamentalmente. Poi dopo chiaramente questa cosa si trasforma. Ecco, tu come l'hai vissuta questa cosa nel momento in cui, tra l'altro, scusa, faccio solo una cosa al volo, la morte l'abbiamo detto, la morte di Joel, molti mi hanno detto, e forse all'inizio l'ho pensato anch'io, che forse è una morte così frettolosa, così fredda, no? Così immediata, così non, cioè non hai neanche il tempo quasi di viverla questa morte, no? E in realtà secondo me è il motivo per cui è la cosa più realistica che succede in quel momento, perché basta, è finita, cioè non c'è possibilità di ritorno, cioè, ed è proprio in quel modo che secondo me doveva succedere, perché lui alla fine muore come un cane ammazzato, così, cioè così, pa. Allora sì, sì, alla fine del primo The Last of Us praticamente sì, Joel diciamo che vede in Ellie la figlia che ha perso e quindi fa quello che fa. La morte di Joel, come le morti di quasi tutti gli altri protagonisti della storia, è molto cruda, cioè nessuno fa la classica morte eroica, no? Lui muore anche un po' da fesso, perché si fa fregare da dei ragazzini che tra l'altro aveva appena aiutato. Sì, anche se l'aveva capito lui, ce l'aveva capito. È troppo tardi però. aveva capito che era la sua fine, questa è la cosa che secondo me ha reso poi forse l'unico momento di epicità, dato diciamo dignità alla sua morte, perché sennò tutto il resto è una morte come tutti gli altri, una morte anonima, boom, buttato lì. Sì, come dicevo, nulla di eroico, non è che ha salvato Ellie, è stato morso, è ucciso, no, è stato ammazzato come un cane per quello che ha fatto. E, secondo me lui se l'aspettava e lo sapeva, perché dal momento che, cioè, dopo che ha preso quella decisione alla fine del primo The Last of Us, lui sapeva comunque che l'avrebbe, secondo me, che l'avrebbe pagata cara. Però io, ad esempio, magari sarò ingenuo, non davo per scontato la morte di Joel, anche perché, come possiamo dire, anche dal punto di vista dei Naughty Dog e della Sony, comunque è difficile ammazzare così come un cane un protagonista molto amato dal pubblico, quindi secondo me è una scelta molto coraggiosa. Visto come hanno fatto morire Han Solo, possono far morire Joel nello stesso modo, insomma. Io, sapete, cioè, non ho parlato centinaia di podcast del fatto che un eroe che è l'eroe della tua esistenza non è un eroe di un film, di un libro, è l'eroe della vita di un'intera generazione che deve morire come uno stronzo. E io non l'ho accettato. Il resto poi dopo è diverso. Scusa, comunque vai, riprendi. E poi sì, come dicevamo prima, secondo me uno degli aspetti più belli di questo gioco era il rapporto tra Joel e Ellie, perché poi magari io l'ho interpretato a modo mio, però si vedeva, lui si sa che l'amava come una figlia e avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei, anche se lei era in un'età adolescenziale, ad esempio all'inizio, comunque lui cercava sempre di difenderla quando il titolare del bar le ha dato della lesbica, certo, lui sì, l'ha preso a pugni. Esatto. E lei non lo sopportava questo? Lei non lo sopportava, sai, cioè, secondo me, sia per l'età, che comunque della ribellione, eccetera, sia per quello che lui ha fatto, perché forse lei lo immagina, però lui non, all'inizio non lo dice, però lei lo sa che l'ha fatto perché l'amava come una figlia. A un certo punto gli dice, guarda, io l'ho fatto e lo rifarei altre mille volte, cioè, lui non si pente di questa cosa. Però vedi che lui è un po' burbero e ha difficoltà a approcciarsi a lei per una serie di motivi. Lei comunque questa cosa qua, a un certo punto c'è una scena che mi è rimasta impressa, e sono loro due quando in un flashback, non so se lo ricordate, trovano in una casa due ragazzi che erano scappati dalla città, erano morti, non so, una coppia di fidanzati, e lei a un certo punto gli dice, cavolo, se ci fosse stata una cura per questo male, questo non sarebbe successo. Ma è stata una cosa molto potente questa frase. Sì, anche perché penso che questa cosa tra di loro, nella parte non raccontata, sarà rimbalzata milioni di volte, no? Cioè, nel senso, esatto. Secondo me lei poi lo sa, però cerca la conferma definitiva, e questa cosa per lei è un conflitto incredibile, anche perché da un certo punto di vista Joel poi ha scaricato su di lei la sua scelta, che è stata una scelta potenzialmente distruttiva per l'umanità. Per cui noi non sappiamo se al mondo ci sono altre persone immuni come lei, o se lui ha ammazzato anche gli ultimi chirurghi in grado di. Così come non sappiamo se poi in realtà avrebbero trovato veramente una cura. Cioè, nel senso, non sì. è che da quel punto di vista, nel senso, rientra un po' l'umanità della scelta. Io dico, Carlo, secondo me tra Joel e Ellie si spostano proprio i fattori di forza, no? Perché prima era Joel comunque l'ago potente, diciamo, della bilancia. Poi dopo, secondo me, nel momento in cui lui, tra sensi di colpa e consapevolezza di star perdendo, diciamo, quella sua posizione nella vita di Ellie, diciamo, lui è più in difficoltà verso di lei, no? Quindi c'è questo sbilanciamento, e da qua lui anche questo tentativo di riconquistarla, e la scena appunto del brano che abbiamo fatto sentire prima, no? Quando lui canta Future Day, e lei lì, secondo me, è il momento in cui fatica molto, perché anche se lei non lo tollera più come lo tollerava prima, lei è altrettanto protettiva verso Joel di quanto Joel era protettivo verso di lei. E questo è, forse veramente si spostano proprio gli equilibri. Cioè, lei quando sa che Joel è in pericolo, lei è preoccupata fondamentalmente, ma non è preoccupata come per chiunque altro, perché lui comunque è Joel. Sì, beh, lei è disperata proprio quando lo percepisce in pericolo, insomma. Da quel punto di vista, sì, tra l'altro, ecco, lei, e questo è il, diciamo, l'ennesimo schiaffo che il gioco ti dà, come giustamente dicevi tu, che è di farti trovare così in mezzo a un discorso non finito, in mezzo a una mi dispiace non detto, a un ti voglio bene non detto, insomma, a una grande opera incompiuta, che era appunto la loro relazione, in qualche modo, che possa essere fraterna, paterna, come vi piace più a voi. C'è addirittura chi ci ha visto un po' del tenero, un po' come se fosse un po' una sorta di omaggio a Leon, no? Di Luc Besson. Sì. C'è questo. Sì, io penso che sia un tipo di rapporto non identificabile. Ma non, esatto. Non però per... diciamo, ecco, la cosa in cui il gioco ti fa trovare, diciamo, la pozza di fango, fra virgolette, in cui ti fa un po' sprofondare, è anche quello che di sapere che lei lo. Con questo modo di trattarlo, insomma, pur avendo capito quelle che sono le ragioni di lui, che lui dice: guarda, io ho fatto questa cosa per questa ragione qui, a me non me ne frega niente, io l'ho fatto per te, l'ho fatto per noi, lo rifarei, e non me ne frega niente di tutta l'umanità, mi frega di te. Cioè, che penso che è una cosa meravigliosa, no, da sentirsi dire, però ovviamente in un ambito come quello del gioco è un po' meno meravigliosa. Come appunto dicevate voi, lei accetta questa cosa, però non accetta questa cosa, si trova in una situazione estremamente così, un po' a fare un ago della bilancia assolutamente non desiderato. Però ecco, che cosa fa lei, per cui il gioco appunto ti schiaffeggia ancora di più? Lei lo dà per scontato, Joel. Cioè, lei dà per scontato questo omone che sa difendersi da solo, che è comunque un grande personaggio, un grande uomo su cui tutta la comunità in qualche modo si appoggia. Lei pensa comunità, che ci sarà per sempre, ecco. Questo tu dici. Esatto, sì, lo dà per scontato, un po' come, ritorno sempre al discorso delle coppie, appunto anche, non lo so, dei genitori, delle cose. Delle relazioni. Quando tu cominci a dar per scontato qualcuno e poi lo perdi. Certo. Ti senti ancora più cioè ti trovi ancora un po' più in difficoltà, nella già difficoltà di perdere qualcuno. Sì, no, riflettevo mentre tu parlavi, perché poi in effetti, vabbè, senza dove stare, però è una cosa che a me personalmente mi ha proprio, cioè, preso in pieno, mi ha steso, anche perché insomma... è una cosa che ho vissuto anche non troppo insomma di lontano nel tempo, ecco, diciamo così. E Valerio, la scena della canzone, tu, anche se la conoscevamo già perché c'era stata spoilerata in mille modi, addirittura doveva essere inserita nel primo, poi dopo hanno fatto quella cosa teatrale dove hanno comunque replicato sta questione, insomma, della canzone. Ecco, tu come la come l'hai giudicata? Cioè, secondo te è inserita in, per, perché poi è abbastanza all'inizio, no? Quando lui veramente cerca di riconquistare, tra virgolette, l'amore di Ellie. Come, come l'hai vissuta tu? Cioè, al di là del, della parte pseudo-interattiva, dico, proprio come, come spettatore. Guarda, domanda complicata, nel senso, ti posso dire la verissima verità? Assolutamente. Stranamente non è una parte che mi ha colpito, che mi è rimasta impressa nella, nell'avventura, in tutta quella che è la, la trama, la storia. Sono stati altri, in realtà, i momenti che questo magari stupisce, perché comunque è una parte molto... No, no, vabbè, ci sta, molto... ci sta, perché in effetti è una cosa un po' telefonata, dai, da un certo punto di vista, no? Nel senso, sì, forse proprio perché era così stata così tanto telefonata e quant'altro, non sono riuscito a, a viverla come avrei magari voluto. Quindi... anche nel, nel let's play lì per lì, quindi ricordo che comunque facendo let's play, come dire, cerco proprio, come dire, luci soffuse, cuffie, volume alto, narro quello è, e allora sì, però in, in realtà purtroppo lì penso che abbiano fatto loro dietro le quinte male il loro lavoro, telefonando troppo la, la situazione. Sì, vabbè, ma e... perché purtroppo per anni ci hanno fatto vedere sta cosa del, anche della scena teatrale, delle, quindi ci, sapevano che sta scena sarebbe dovuta in, la dovevano inserire, quindi lo sapevamo che c'era, no, non è questo. A me piace in realtà, Enrico, il modo in cui lui, lui la canta, cioè proprio lui... Cioè, allora, poi dopo arriviamo un attimo anche al discorso del doppiaggio italiano-inglese, che è campo anche di Buricana, che per me sono meravigliosi entrambi, cioè nel senso, forse è il gioco in assoluto meglio doppiato nella storia dei videogiochi doppiati in italiano, secondo me, poi perché molti facevano anche fatica all'inizio, alla prima versione, ma lui non c'ha la stessa, cioè secondo me il doppiatore italiano di Joel ci sta a voglia. Insomma, comunque ecco Enrico, vengo da te, la, la scena della, della canzone, della chitarra, e poi dopo vi faccio una domanda a tutti quanti che è importante. Allora, quella scena a me è piaciuta moltissimo, perché vedi che proprio è un suo tentativo di, ci tiene a portare a Dally la chitarra, che poi è un elemento che ritornerà nel gioco, se ci pensate, e è un tentativo di far pace, diciamo, di farsi accettare. E la cosa molto bella è che dopo questo, questa cosa qua, so che è una scena che bisognava cioè che non tutti hanno trovato, però Ellie lo fa anche con la sua ragazza, perché a un certo punto gli canta Take on Me. Mm-hmm. Ok, e se ci pensate poi che c'è sempre chitarra, c'è sempre il fantasma di Joel in quella cosa, perché il rapporto, esatto, tra loro due e la chitarra, perché lui doveva insegnare a lei, lui ha insegnato, esatto, a lei, cioè. E pensa alla fine che lei perde tutto e perde anche le dita con le quali doveva suonare la chitarra. E qui sei andato proprio nel boom. Qua è potente questa cosa, se ci pensate, cioè all'inizio viene trattato come un elemento in comune, alla fine, oltre che perdere tutto, vabbè, dopo ne parleremo, però perde anche le dita, quindi non ha neanche più questo elemento con il quale, tra virgolette, era collegata a Joel e poteva vivere le emozioni. Allora, intanto salutiamo Alessandro e salutiamo Lobby in chat. Allora ragazzi, scusami solo una cosissima, Simone, solo vai, proprio al volissimo, vai, volevo, visto che prima appunto aspettavo che Svente l'avreste toccato, bravo, hai detto la parte di Take on Me, quella mi ha colpito un sacco, ok, quella su quella ho ricollegato tutto, allora, l'impatto emotivo che ci sarebbe dovuto essere, mi è piaciuta tantissimo. Allora ti fermo, perché è proprio questo che voglio domandare a tutti quanti, partendo da te, Valerio. La scena in assoluto che va colpito di più di tutta la storia della parte 2, e perché soprattutto? Tanto salutiamo anche Vargion, ci saluta in chat. Ciao Vargion, ciao a tutti quanti. Vai, scusa. Ciao Leo. Allora, in realtà non ho fatto una lista mentale, perché ce ne sono molte. Sì. Mi ricordo che una cosa che mi fece lì per lì, come dire, una delle scene che ho dovuto ricommentare la sera con la mia compagna, per farvi capire, quelle scene che dici un attimo, mi è piaciuto, parlando delle piaciuto, usato, immaginate il contesto, la morte di Jesse, che ricordo per essere l'ex fidanzato di quella che poi è la ragazza di Ellie, sì, esatto, il cinese, il papà del bambino. Il cinese. Lui, quando si parlava in termini un po' volgari ma crudi e giusti di morti da stronzo, quella è stata l'apice ed è stata la morte più giusta, cioè più di Joel, più di altri, che poi appunto vi era tutto quel circolo di rabbia, di vendetta, di premeditazione. E lui è morto come un personaggio neanche secondario, no? Terziario, come uno sgherro qualsiasi. Sì. E quella è stata, come dire, una humbling, cioè proprio ci ha fatto ricordare che in realtà di fronte a un proiettile in faccia non esiste grande storia eroica e quant'altro, e siamo tutti là, e ti fa capire quanto quello in realtà ha dato risalto a quelle che erano le vicende che vivevano tutti gli eroi, perché ci ha ricordato ancora di più che non solo sia facile morire, ma comunque siamo in un gioco, comunque c'è quel minimo di storiella intorno, no? Può darsi che Ellie, perché io ce l'hai il dubbio, ma Abby, Ellie, ma potrebbe esserci un momento in cui in una cutscene, in un istante, te l'ammazzano così? Io ho avuto paura che mi togliessero il personaggio da sotto le mani. Sì, perché in realtà il gioco assume realismo in questo. Cioè non è già, mi sparano, oddio, però non muoio. Tipo Joel nel primo, no? Qui in realtà vedi la gente morire così. E c'hai ragione su questa cosa. Salutiamo in chat mia nonna Pela... Pelataca Colcher. Che cazzo c'è scritto? Vabbè, buonasera comunque. Benvenuto, chiunque tu sia, insomma. Mi non ha pelata col cero, forse sarà, non lo so. Ah, sì, forse. Pelata col cer. Sì, forse non. Vabbè, comunque andiamo avanti. Esatto. E scusa, Valerio, continua. No, niente. No, dico, quindi è come dire, ho avuto a riflettere da questo punto di vista. In realtà è stata una riflessione un po' di meta, nel senso che. Il fatto che io abbia avuto il reale timore mi togliessero il personaggio dalle mani per realismo, come dire, per forza narrativa, tipo vabbè raga, tu sei andato in un punto dove è palese che muori e quindi magari muori, mi ha fatto essere più, ancora più timoroso in certe cose, perché ho detto oh, qui può darsi che fanno anche il colpo di matto, e quindi mi ricordo che c'ho, come dire, mi ha cambiato l'esperienza e ovvio mi ha fatto riflettere su quello che sia poi la morte dei personaggi, ma quello il gioco già ci marciava da parecchio, insomma. Però è stato un piccolo punto di svolta che mi è piaciuto e mi ha in qualche modo galvanizzato. Beh, infatti, e poi vengo invece agli altri, voglio sentire l'opinione, però finendo quello che dici tu, in effetti ci poteva anche stare che Ellie morisse, ad esempio, no? Però poi dopo, ripensandoci, il fatto che lei non muore forse è la condanna ancora più... È la beffa, esatto, proprio. Esatto. Enrico, qual è la tua scena o le tue scene o la situazione nella quale comunque ti è rimasta proprio più impressa, che hai detto porca puttana, cioè? Allora, molte scene in questo gioco, però quella che proprio mi ha lasciato di stucco è stata alla fine, quando tiri giù Abby dalla croce, perché tu sei abituato a vedere questo personaggio forte con un fisico imponente e a un certo punto la trovi e a me sembrava come fosse uscita da un campo di concentramento. Mi ha veramente sconvolto questa scena. Beh, lì poi alla fine arrivano a un punto in cui non c'è più la più forte. No, a un certo punto lì sì, si ritrovano faccia a faccia e io non pensavo che finisse in questo modo, devo essere sincero. Però entrambe le stesse motivazioni, entrambe gli stessi dolori, solo che noi nel primo questa cosa non l'avevamo capita. E ci stava tutto sommato, no? Però io non ho capito. Io il gioco l'ho giocato in italiano, però a un certo punto mi sono anche chiesto perché alla fine lei non la uccide. Perché a un certo punto dicono anche che Abby è stata morsa. Quindi non so se il discorso è perché è stata in prigionia, perché appunto è stata veramente morsa e stava morendo attaccata dal virus. Questa mi ha lasciato un po'. Non so voi come l'avete interpretata questa forse cosa. Forse non l'ha uccisa perché ha capito che è una certa basta. perché ci può anche stare, insomma, poi sentiamo anche gli altri. Carlo, la tua scena, la tua situazione, il tuo momento in cui proprio hai detto ammazzatemi, diciamo, abbassate, guarda, anche me. Le scene che mi hanno colpito veramente di più di tutte sono, diciamo, tutto il segmento di gioco con Abby. E lì, diciamo, tu vieni da tutta una serie di morti ammazzati, dei cani sdrumati, tutta una cosa così, e il gioco un po' lì ti fa capire che tu non è che hai ammazzato, capito, appunto i cattivi di Cani il Guerriero che fanno la risata malvaggia mentre, non so, vivono vino rosso, ma hai ammazzato delle persone con un vissuto, con un passato, con degli affetti, con degli amori, con delle famiglie, con dei figli. E in particolare, ecco, appunto, il gioco ti dà quel pizzone micidiale, che lì secondo me quello è veramente il punto di veramente non ritorno, proprio dall'inferno in cui Ellie uccide Mel, che è incinta, e si accorge del fatto che lei è incinta. Lì, sì. E lì è veramente, là c'è proprio lo sprofondare proprio nell'inferno totale. Lì capisci che proprio non, pur volendo, non c'è più ritorno, non c'è proprio più ritorno, sì. Da lì. E io penso, e poi che lì, appunto, c'è poi tutto il segmento di gioco con Abby, e lì è brutto, perché ti prende il magone quando, non lo so, tu vedi, che ne so, anche il rapporto, mo dico una stupidaggine, il rapporto che lei ha col cane che va in perlustrazione con loro. E io mi sono messo come un imbecille a giocare un quarto d'ora con quel cane, perché poco prima l'avevo accoltellato alla gola con Ellie. Per cui, cioè, è una cosa che sono cose che ti fanno stare, sì, male, perché sì, sì, capisci che non esiste il buono, non esiste il cattivo, esistono solo persone, sostanzialmente, che fanno cose da persone, ed è una roba, e lì quello è traumatizzante, sì, quello è una cosa che ti segna sicuramente. Sentite, ma se io faccio, partendo da Valerio, poi Enrico e poi Carlo, no? Ma se io faccio questa specie di paradigma dicendo che Joel is the new Lee e Ellie is the new Joel, voi che dite? Attenzione, momento di panico. Valerio, oddio, non mi lasciate sti vuoti così, perché penso che siete caduti, cioè. Una pausa drammatica, sì, esatto. Ti posso dire che non sono una persona ignorante e mi sfugge in questo momento lì a chi mi sta riferendo. Ok, scusa, hai ragione. L'ho dato per scontato. Lì è il, esatto, protagonista della prima stagione di The Walking Dead della Telltale. Ah, lì il sì. Quello di colore, aspetta, sì, mi sto, esatto, perdendo. Sì, sì, no, bravo, esatto. Il protagonista della prima stagione, quello che c'ha il rapporto con Clementine. Della Telltale, esatto, sì. Ok, ho ricollegato perché Telltale non lo tocco dal tipo il 2013. Beh, sì, insomma, perché è uscito abbastanza prima, diciamo. Comunque, neanche tanto. Esatto. E allora sì. E allora, cazzo, sì. Cioè, ci sta un sacco come paradigma. Coglie assolutamente in pieno. Tra l'altro, voi lì come l'avete fatto morire? Questa è la domanda. Io gli ho fatto sparata a lei. Io, per me è stato un momento drammatico della mia vita, io l'ho lasciato ammanettato perché non volevo che lei venisse scioccata dall'idea di doverlo uccidere, per esempio. Quindi, va bene, comunque. Lo so, però lì è una questione di scelta. Cioè, lei a quel punto glielo, anche se è una bambina e non lo capisce, cioè lei a quel punto glielo deve in qualche maniera. Cioè, lui lo implora. Cioè, nel senso, è un momento. Però sì, è chiaro, una bambina forse non l'avrebbe fatto. Io infatti ho ragionato da me, e questo forse è l'unica cosa un po' deviata, no, di quella cosa, perché ti mette di fronte a una scelta, ma la scelta la fa la bambina, e io non riesco a immedesimarmi nella bambina, e quindi tu glielo chiedi, però, no? Tu sei lì e chiedi a lei di fare qualcosa, praticamente gli dici no, poi dici no, vai. Sì. Sì. Comunque, però, bravo, hai colto una cosa molto, molto giusta, cioè, nel senso, comunque il paradigma è azzeccatissimo, nel senso che comunque ti porta a immedesimarti in delle emozioni similari, in un certo punto di vista, più che meramente solo situazioni. Sì, sì, beh, certo, è chiaro che poi i personaggi, i contesti sembrano simili, ma poi in realtà sono molto diversi. Però poi anche Ellie diventa Joel, poi, fondamentalmente, cioè ne assume proprio l'eredità in maniera così lampante, forse anche peggio a un certo punto. Molto peggio, sì, secondo sì, me a un certo punto lei diventa anche peggio. Il personaggio ancora più distruttivo e autodistruttivo proprio. Perché evolve male, secondo, cioè male nel senso proprio che quando prima si parlava della scena che dice della croce, no? Io non so voi giocandolo, ma io lì non erano solo i personaggi a essere stanchi. Io ero stanco di vivere così tante emozioni, certo, tragiche. Sì, certo. Assolutamente. Alla fine crolli, ti arrendi per forza. Vargheon dice: ma guarda, tutta la parte, secondo me, tutta la parte quella della base, cioè la penultima, l'ultima parte, quella poi dove si arriva poi alla croce, tutta la quella parte di, diciamo, di infiltrazione. Vabbè, poi ognuno poi se la gioca come gli pare, per carità, però lì. Tutta la parte dei briganti, appunto, che hanno messo sulla croce lei, quella è veramente una cosa che ti fa arrivare veramente esausto, proprio esausto psicologicamente, proprio annichilito proprio. C'è Vargheon in chat che dice: Joel è una merda e allo stesso tempo il migliore di tutti. Il secondo non l'ho giocato, ma il primo mi ha lasciato come uno stronzo, fondamentalmente. Ragazzi, il secondo è peggio. Cioè, molto. È l'estensione inevitabile di un processo di maturazione narrativa, anche perché poi dopo arriviamo anche un po' agli aspetti tecnici, non soltanto audio, ma comunque in generale, no? Perché Naughty Dog questo ha sempre fatto, un'evoluzione costante e un'attenzione alla maniacale, al dettaglio. Ci ricordi i primi Uncharted, quando lui si appoggiava alle pareti, quando, no? Cioè, quando arrivava vicino a determinati ostacoli, no? Cioè, tutte cose che tu nei videogiochi non hai mai visto, no? Fondamentalmente. Però ecco, c'è sempre questa evoluzione tecnica e narrativa. E poi qui vi faccio una domanda che alla fine ce l'avevamo segnata, me l'ho dimenticato, sempre a rotazione tutti quanti. Cioè, il fatto che mentre che su Uncharted vivi questo distacco tra lui, personaggio scanzonato, avventuriero alla Indiana Jones, e poi dopo nel gioco è un omicida che stermina centinaia di persone, e questa cosa crea che chiaramente è stridente, no? Dal punto di vista generale, quanto invece su The Last of Us questa cosa funziona. E poi tra l'altro non sono centinaia come potrebbero essere magari su un Uncharted qualunque, perché io penso che Nathan Drake in quattro giochi avrà ammazzato 2.000-3.000-4.000 persone, insomma, non è stesso, vedete, e siamo quasi a livello del genocidio, insomma, tutto sommato, no? Ecco, sì, penso abbia sterminato la popolazione dell'Emilia Romagna. Esatto, circa, salutiamo gli amici statisticamente. Salutiamo gli amici superstiti dell'Emilia Romagna. Ecco, dell'Emilia Romagna. Ecco, questo distacco secondo voi esiste? Cioè esiste anche in The Last of Us, o in The Last of Us è più credibile sta cosa? Partendo da Valerio. Allora, in The Last of Us è molto più credibile. Parte dal presupposto che io sono uno di quelli che della Naughty Dog apprezza solamente The Last of Us, proprio per questo motivo. Quindi non è che voglio togliere niente a quello che ha realizzato, quello che rappresenta un Uncharted. Però proprio non riesco, cioè fisicamente, cioè se devo scegliere quel lato, certo. E forse tra di noi già ci siamo detto, preferisco a quel punto, guarda, vado sui classici, vado su Tomb Raider e mi fermo lì. Oppure su Indiana Jones, che adesso tornerà a quanto pare. Mannaggia, ma Sara, non lo dico, non di queste cose, te prego, perché ma in The Last of Us, sebbene si possa tranquillamente scegliere di deumanizzarsi, a livello di gameplay te lo lasciano tranquillamente fare, magari non con i numeri, ma le scene di azione, volendo, possono essere crude, ma puoi anche uscire gun blazing, e se sei bravo, perché lì devi essere bravo, puoi farlo. Cioè, io onestamente col cecchino ho fatto delle scene in certi momenti più action, nel senso, mi sono meravigliato di quanto il gioco mi venisse dietro, però te ne rendi anche tanto conto di quando ammazzi qualcuno, a livello di suoni, immagini, sensazioni, vibrazioni nel pad, quando usavo il pad, che io in realtà l'ho giocato quasi tutto col mouse perché sono una brutta persona. Però il gioco ti trasmette che quello che fai ha un impatto. Questo ce l'ha sempre, anche nelle uccisioni di quelli che sono, diciamo, proprio, come dire, gli omini qualunque. Il fatto che vedi le facce, che vedi, senti i loro discorsi, e spesso i loro discorsi non sono proprio solo triviali, a volte capisci anche dei barlumi di quella che è la loro quotidianità, c'è una storia, certo. ci sono dei momenti che tu puoi approfondire, no? E poi magari esci e ne sgozzi uno, certo. E le scene sono anche crude, quindi no, personalmente io che lo vivo come lo vivo io in genere, come dire, ci sta il momento in cui, e sempre però in maniera immersiva, le cose vanno talmente male che non ti resta che correre, che è un'opzione che hai, tu puoi praticamente evitare quasi tutte le uccisioni, diciamo quelle secondarie, o ti trovi con le spalle al muro, ti devi girare, devi sparare e tentare in tutti i modi di sopravvivere. E lo vivi, cioè ragazzi, cioè lo vivi. E questo è figo. In Uncharted non vivo niente, boh, nel senso... Beh, sai, il problema è che... Vabbè, poi sentiamo Enrico. No, stiamo entrando nel soggettivissimo. No, è che è una storia carina, cioè anche filmicamente è interessante, però poi c'è sta cosa che è sempre stata stridente, sin dall'inizio. Cioè comunque tu stai lì, sei il personaggio, fai lo sbruffone. Perché va più sul lato arcade in realtà, che è assolutamente legittimo cercare il gameplay giocoso e... Sì, sì, però io l'ho visto come una sorta di esercizio in funzione di questo punto d'arrivo, secondo me. Che poi tecnicamente abbia fatto appunto delle rivoluzioni. Vabbè, poi comunque ringraziamo che in The Last of Us 2 ci sono molte meno scale, e parliamo di caricamenti che ci stavano, perché dovevi portare scale in giro ovunque. Io mi ricordo questa cosa drammatica del primo The Last of Us. Però ci sono stati grandi passi avanti. Poi tecnologici, la grafica, signori, adesso non stiamo parlando della grafica della The Last of Us 2 su PlayStation 4. Io ci ho giocato PlayStation 4 base, schifosissima, era un cacchio, sì, un mostro. È Naughty Dog, c'è cazzo da fare da questo punto di vista. Enrico. Allora sì, per questo discorso delle morti, io ho giocato a Uncharted 2, credo solo, qual è quello che inizieri sul treno dove arrampicarti? Il 2, sì, quello che casca, okay, sì. Ok, allora io ho visto questo, cioè, bella questa scena, differenza. Bella scena, tra l'altro, cioè, nel senso spettacolare come scena, poi dopo ovviamente, vabbè, vai, continua. E giustamente, come avete detto voi, lui fa un genocidio, lui ammazza veramente un sacco di persone. E però su The Last of Us invece, su The Last of Us 2, e come diceva Ciriola, le morti sono più forti, perché comunque anche dal punto di vista audio e video, però secondo me l'aspetto più potente delle morti di The Last of Us 2 è che quasi tutte sono personaggi che tu conoscevi, dei quali conoscevi la storia, a parte magari quando ammazzi i serafiti, le iene, che la fai un po' di carneficina, però dopo, a un certo punto, quando tu rincorri tutti gli amici di Abby, tutti gli amici, oppure i personaggi amici di Ellie, sono personaggi che tu in un certo senso conosci, e conosci le loro storie, conosci le loro motivazioni e quello che li spinge. Quindi c'è questo parallelismo tra la carneficina così libera e poche morti però più significative, non so se mi spiego. Sì, assolutamente. E poi tra l'altro io Uncharted da questo punto di vista lo associo più a Gears of War, no? Cioè nel senso, sì. Cioè nel senso è quel gioco action che tu ammazzi tutti e ogni tanto si sa qualche battuta e via, cioè finisce là, insomma, non è che... Sì, che va benissimo, cioè, sì, sì, no, no, per carità, ma io poi con gli Uncharted devo dire oggettivamente mi ci sono anche divertito, non è che sì. però poi dopo quando vedevi sta cosa, quando finivamo io con Marco, che insomma tante volte questi giochi li giocavamo insieme, alla fine diceva vabbè, ma alla fine questo, cioè, sì, ha sterminato un paese, un assassino, cioè vabbè. Carlo è intervenuto? No, vai. Ma io non ho molto da aggiungere, insomma, sono d'accordo. Vabbè, allora è finita la puntata, arrivederci, grazie. Per cui non assolutamente. Vabbè, sono due passi, diciamo, hanno una cadenza completamente diversa i due titoli. E c'è proprio, come dire, proprio hanno una luce completamente diversa, insomma, se volessimo parlare, diciamo, in termini fotografici, no? Per cui diciamo è ovvio che qui ogni cosa che fai, ma non solo uccidere qualcuno, ha un significato e ha un peso molto più bilanciato, certo. Esatto, più pesato, più anzi pesante, che in qualche modo ti fa capire che quella scelta che hai fatto, che non hai fatto, genererà comunque delle conseguenze. Molto, sì, è molto interessante come esperimento da questo punto di vista. In chat c'è Michela, dice ciao a tutti e viva Eddie, ovviamente. Sapevo che sarebbe successa questa cosa, però vabbè, sì, salutiamo Eddie, ciao Eddie, mi raccomando. Allora, ragazzi, vi ricordate quella ragazza che giocava? Ci stava questa ragazza che era un trailer praticamente, che però in realtà è stato visto anche in gioco, proprio che quando Ellie usciva dall'acqua e si trova a confronto con quest'altra ragazzina che stava giocando, non so, con qualche console portatile e aveva le cuffie. Come no? Mi ricordo. Certo. Sì, sì, certo. Quella scena, se ci pensate, quell'altra era una ragazzina qualunque di cui non sappiamo e non sapremo fondamentalmente niente, se non che aveva buon gusto, se vogliamo, di musica e giochi, però che viene ammazzata come una stronza. E lei non era una dei personaggi di cui poi, no, appunto, come diceva, adesso mi viene da dire Freddy, Enrico, pardon, ecco, di cui in realtà poi appunto sai le cose per cui hanno un peso. Cioè, quello che volevo dire col mio discorso era proprio il fatto che anche di quelli che non sappiamo niente hanno saputo dargli un peso, e quella scena che vi ho appena descritto è quella magari con più enfasi, quella, però, cioè, hanno dedicato tempo, energie, risorse a farci pesare quelle uccisioni, ed è quello, se vogliamo, proprio, cioè è l'intenzione che c'è dietro che rende davvero proprio un enorme spartiacque fra i due titoli della Naughty Dog, e c'è proprio dietro un ragionamento molto diverso che in quella scena che vi ho detto, insomma, l'ho apprezzato anche là parecchio, ecco. Allora, io innanzitutto quello della nonna lì ha detto che giustamente era perché non gli c'entrava il nick, quindi adesso si chiama, per me è la cipolla, so che cazzo significhi, però va bene, che ci domanda, e qui vi faccio la doppia domanda dopo che l'ha inserita: che cosa ne pensate del bacio lesbo? Io te lo dico io, questa è stata una cosa sulla quale si è discusso tanto ed è l'elemento meno interessante da un certo punto di vista, perché secondo me il fatto che Naughty Dog abbia inserito questi elementi all'interno di entrambi The Last of Us e il fatto che la gente ne parla sopra, cioè, ma che bisogno c'è, no? Ma in realtà, cioè, vuoi dire, mi sembra proprio l'argomento meno interessante, esatto. Quanto però invece in questo caso specifico il bacio, vuoi avere via delle tecnologie, delle animazioni, delle espressioni facciali, del movimento, della cura nel dettaglio, è la prima volta che vedo un bacio credibile all'interno di un videogioco, credibile nel senso che ti dà proprio la sensazione della pomiciata, del bacio, insomma, diciamo così. So cosa. Ma non sei rimasto scioccato da Shepard? Da Shepard, vabbè, Shepard neanche se le baciava, lui le trombava direttamente. Cioè, guardi, Shepard, stanno sterminando la galassia, vabbè, chi è qua? Beh, tu c'hai il culo bello, vieni qua, tu c'hai il zine, vieni qua. Questo faceva Shepard fondamentalmente. Grande Shepard, cioè grande, per carità. Voi sapete quanto ho amato Mass Effect e continuerò a amare, anzi, penso che comprerò pure questa nuova trilogia Deluxe Super YZ. E ecco, dicevamo, Carlo, inizia tu. Beh, diciamo, ma non solo, cioè quello è sostanzialmente, come dire, la punta dell'iceberg di tutta come dire, la messa in scena della relazione fra Ellie e oddio, non mi ricordo come si chiama Dina. Dina, giusto, è vero. Dina. Che cazzo di nome è poi? Dire, cioè, tutta la parte, diciamo, tutta il loro flirt, no? Che c'è sia alla festa, sia invece quando vanno in quella specie di vault, in quella specie di bunker dove fumano la canna e tutto il resto. Cioè, tutta quella parte lì in cui loro flirtano e così si prendono un po' così a frecciatine, fanno tutta quella un po'... mi viene da dire un po' quella danza dell'amore che farebbero due persone che si piacciono, che fanno anche un po', diciamo, sono anche un po' maldestre per certi casi a esprimere le loro i sentimenti, no? Magari si c'erano dietro qualche battutina, magari anche un po' così. E quella parte lì è meravigliosa, secondo me. Quelle parti lì sono meravigliose. Poi, vabbè, il bacio, le cose, sì, anche lì tecnicamente è sopraffino. No, però te lo dà quel senso, cioè percepisci la passione in quel momento. Cioè, la prima volta. Assolutamente. È la prima volta che ho avuto questa sensazione di fronte a una un'immagine sintetica, fondamentalmente. Sì, sì, sì. Beh, ma anche tutta la parte del piccolino in cui loro accudiscono questo neonato, tutto il resto, lì capisci proprio quanto lavoro è stato fatto anche da quel punto di vista per in qualche modo trasmetterti non solo visivamente ma anche proprio così a livello sensoriale questa sensazione di pace, no? Quantomeno, vabbè, poi per Ellie era una pace apparente, però questa sensazione di serenità familiare, no? Fra di loro, questa sorta di stabilità che però ovviamente tu, conoscendo bene il personaggio di Ellie, sai che è una stabilità così molto appoggiata su un fulcro molto sottile, per cui, sì, infatti i mostri l'hanno chiamata poi, cioè hanno proprio gli spettri la chiamavano a gran voce, tra l'altro, poi alla fine. E vabbè, quello poi è stata la distruzione finale, no? Come dicevamo un po'. Sì. E Valerio, la cosa del bacio XYZ. Intanto comunque diciamo è tutta colpa di Tommy, ma a parte questo, vi ricordate, sì, che Tommy è stato lui a andare a riacchiappare Ellie per i capelli, gli ha tolto quell'unico barlume di felicità che stava riuscendo a ottenere. Comunque, ci stavo pensando fra me e me nel corso anche di questa serata, di quanto sia bello il fatto che non sia stato reso sensazionalista, che non ci sia stato dietro in realtà tutta questa grande storia, riguardo al fatto che ci siano dei personaggi, dei protagonisti omosessuali, diciamo lesbiche, quello che sia. È stato garbata, con una cosa garbata proprio, secondo me. L'hanno dipinto in una maniera naturale, sì, sì, esatto. Garbata, come dovrebbe essere. Bravo, bravo, sono d'accordo al 100%. Sì, proprio. Sì. Cioè, il fatto che quando si parla delle cose importanti The Last of Us non si, se ci fate caso, non è uscito davvero in modo, penso, del tutto naturale per tutti, il fatto che nessuno abbia detto qualcosa riguardo al fatto che ci sia un personaggio lesbico, che ci sia il personaggio ultra muscoloso che potrebbe sembrare quasi un uomo. Non sono quelle le cose importanti, quelle sono cose che succedono nella vita ormai, cioè, ed è giusto che le si accettino, non a forza come a volte Netflix cerca di buttarci dentro cose molto forzosamente. Sì. Questo, infatti, ci faremo una puntata tra qualche settimana su questa cosa, su Achille di colore. No, però. No, ma anche su Artù di colore. Ecco. O la sirenetta. Però. Sia qui palese, che ovviamente siamo sempre per la parità di diritti, no, e no, sì, ma eccetera. Però esatto. È proprio un discorso, secondo me. Vabbè, non voglio uscire troppo. Sì, dai, non c'entra. Cioè, sono contestualizzazioni. Il problema è quello. Vabbè, comunque, dai. E quindi, che dire? Sono contentissimo che lo abbiano fatto proprio in questo modo, perché penso che sia. Sia stato un punto importante per la storia del videogioco e della storia di come si raccontano nei tempi moderni ormai. Bravo. Dove si spera che le persone stiano allargando un po' i loro orizzonti, che un tempo gioco forza erano stati stretti un po' dalla società, un po' che erano i tabù eccetera, e adesso ma accettiamoli, cioè le persone che si vogliono bene sempre, tutti, ed è quello che hanno fatto vedere. E il fatto che ci sia ancora, anche come abbiamo visto, no, quello che Joel poi è andato a picchiare il gestore del pub, mi pare, se non erro, che era che gli aveva dato della lesbica. Sì, vabbè, comunque quello era uno stronzo, assolutamente. Però nel senso, il fatto, cioè, ci hanno reso tutto naturale, perché noi nella vita di tutti i giorni abbiamo sempre quello che ci dice ma lascia di stare, che male ti fanno, e c'è quello che ti dice no, a me non piacciono, oppure se parliamo magari di omosessuali, sesso maschile, no vabbè, io soltanto se cammino striscio la parete, cioè nella vita trovi tutti, no? Ce l'hanno dipinto in una maniera, però senza essere forzati, e a me quello è piaciuto. Poi del bacio di per sé è stato un bellissimo bacio, anche se secondo me non erano una bella coppia, banalmente. Perché però, molti dicono che lei lì, Dina, è brutta, cioè nel senso, in realtà non parlo di estetica, parlo proprio di carattere. Secondo me Dina meritava davvero una cosa molto più tranquilla. Però quello sono io. Ellie, ragazzi, cioè, scusate questa piccola parentesi, ma il momento in cui lei arriva, Tommy lascia Dina e il figlio, è il momento in cui io ho avuto il totale break, proprio mi sono totalmente staccato dal personaggio di Ellie, cioè a quel punto non ti posso più giustificare, ragazzi. No, ormai, ormai sei andata, io ti seguirò, cercherò di capirti, ma per me hai fatto proprio l'ultima gran cazzata. Che è un atto di scrittura incredibile, perché secondo me chi... Allora ragazzi, qui noi ci troviamo tante volte a vedere serie televisive, poi vengo da Enrico che giustamente deve ancora rispondere sulla, certo, sulla parte del bacio. Però poi mi vengono in mente le cose, le devo dire, se no poi mi scordo, perché io sono fatto così, non mi segno, non faccio, io so così, insomma. Però è un atto di scrittura incredibile, noi spesso e volentieri ci troviamo a vedere serie televisive, anche grandi film, anche con grandi produzioni, e ci lamentiamo tante volte perché manca, non nella capacità, perché io penso che chi lavora a quei livelli, no, cioè nel senso non può essere un incapace, oddio, poi non si sa mai, no? Manca il coraggio di avere una capacità narrativa di anche di rottura, di anche forte, no? E qui c'è una tecnica di scrittura dietro a una cosa del genere, perché chi ha fatto questa cosa ha voluto che Ellie andasse alla deriva, anche da noi, che comunque la controllavamo. E questo alla fine comunque in qualche maniera è il proprio l'apice della scrittura di un videogame, secondo me, ed è difficile oggi, possiamo solo sperare che si vada in quella direzione, perché è difficile replicare oggi una pietra, cioè è un mettere un segno, no? Cioè tu hai messo il segno qui, oltre questo per ora difficile che ci trovi qualche cosa, e non parlo dei gameplay, di tipo di gioco, io sto parlando di scrittura narrativa, cioè quindi poi dopo, perché c'è tanta gente che The Last of Us non lo vuole giocare, non gli frega niente, non gli piace il tipo dei giochi, preferisce tutt'altro e via dicendo, quindi io parlo sempre dal punto di vista narrativo. Secondo me questo è un po' una sorta di segno limite, no? Dove neanche i giochi più strettamente narrativi ancora sono arrivati, cioè quei giochi che in realtà basano tutto sulla scrittura della narrazione, come possono essere i giochi dei produttori lì di Until Dawn, come che so, ecco, anche quelli là, Dotnote, no? Cioè, quindi tutti sti simil Telltale che stanno uscendo recentemente, che è basato tutto sulla narrativa e non hanno il coraggio di arrivare a quel livello lì. Insomma, questa è una mia visione, poi mi rispondete, però prima volevo sentire un attimo Enrico sul discorso del kiss kiss. Beh, guarda, sarò breve, secondo me. No, ma tu puoi essere lungo quanto te pare. No, nel senso che secondo me non c'è da parlare di un bacio, perché è un bacio tra due persone libere che si amano, che si vogliono bene e che stanno cominciando una relazione, e quindi non c'è da stupirsi, come dicevano anche prima Ciriola, cioè è naturale, deve essere naturale, non deve creare dibattito questa cosa. E cioè deve essere accettata dal punto che però tecnicamente, fotograficamente, la profondità di campo, l'uso dell'inquadratura, lo sfondo, la ripresa, il movimento di camera, cioè ragazzi, ma di che cazzo stiamo a parlare? Cioè, sì. Ti stavo dicendo dal punto di vista concettuale, dal punto di vista tecnico, esatto. È stato un capolavoro, cioè assolutamente incredibile, come tante altre scene del gioco. Esatto. Vabbè ragazzi, io vorrei sapere da voi, e poi andiamo a parlare un po' di gameplay e di passione sound design, che ce l'ho pronta qua, no? E vorrei sapere da voi la cosa che vorreste dire che fino adesso non avete detto, cioè nel senso che magari vi è rimasta sul gozzo. Partiamo proprio da Enrico. Ce ne sarebbero tante. Io voglio solo spezzare una lancia a favore di Joel, perché ho sentito molto criticato. Però Joel, no, criticato in senso umano, non nel senso, perché io lo adoro, cioè per me era mio padre. Sì, no, non dicevo a te, anche dai commenti in chat, no? Ah, ok. Si capisce, cioè, a me è un personaggio che piace un sacco, perché anche questo tipo di personaggio dell'uomo che non ha più nulla da perdere, tipo Max Payne o tipo il Punitore, a me piace, ha un certo fascino. Però, cazzo, lui ha fatto, anche dopo che è morta sua figlia, anche nei 20 anni, prima di conoscere Ellie, cioè lui ha fatto quello che ha fatto, è diventato quello che è diventato per sopravvivere. Cioè, no. Se non fosse stato così, sarebbe morto come un cane. Sì. Beh, quindi... No, però ecco, se puoi approfondire, se vuoi parlare del finale, di come... Cioè... Il tuo rapporto poi alla fine, cioè questo gioco l'abbiamo abbastanza capito, no? Però cioè, se c'è un qualcosa che tu dici, ok, è come quando sei uscito da un cinema e stai a fare un cineforum con gli amici, cioè che ti ha raccontato sta storia? Proprio a te, non dico solo di che cosa ha raccontato. Beh, guarda, una cosa mi ricollego prima, no? Vabbè, a parte il discorso dell'odio che genera odio, della rabbia e di questa catena infinita, però a un certo punto una scena che mi ha molto colpito è quando Tommy va per l'ultima volta da Ellie, no? Che gli dice che la fa andare per la terza volta a cercare Abby, mi sembra, giusto? Sì. Per la seconda volta. E là, cazzo, ho detto sì, è vero, nella vita è così, perché si vede che che Ellie a un certo punto non vive bene, e io sapevo che lei sarebbe andata, perché a un certo punto nella vita tu le cose le devi fare, anche se sai che sono pericolose, anche se sai che a un certo punto di vista sono sbagliate, però questo gioco un po' mi ha fatto vedere che se sai che una cosa deve essere fatta, devi farla, non puoi vivere col rimorso o col pensiero. Sì, che poi alla fine, se c'hai i mostri che ti continuano a inseguire, non c'è niente da fare, non troverai mai la pace. Cioè, esatto, perché lacerato... cioè, quella scena potentissima, quando lei, appunto, lei alla fine potevi dire: cacchio, adesso lei ha la sua compagna, ha una loro bimba da crescere, ha la fattoria che era il suo sogno fin da bambina, no? E poi vi ricordate che a un certo punto va nella stalla, vede un agnellino e a un certo punto ha il flash di Joel. È potentissima quella cosa. E infatti, via. Chi è che avrebbe fatto la stessa cosa? Secondo voi? Io sì. No, cioè io dico no. Tra i personaggi, chi è che Joel avrebbe fatto la stessa? Cioè, Joel avrebbe fatto uguale, sarebbe preso, avrebbe preso e sarebbe partito. Quindi. Joel avrebbe raso il suolo, il coso là, il quartier generale, cos'era, il campo da football dei lupi, se avessero ucciso Ellie. Ok, Carlo. Sembra che quei carri armati. La domanda è una cosa che. Oppure una cosa che tu avresti voluto inserire all'interno di questa cosa e che magari non abbiamo detto, sulla quale vuoi puntare l'attenzione, oppure che ti ha lasciato, che c'è, come sei uscito da sto gioco, perché da sto film poi alla fine, però stiamo parlando del film, poi parliamo del gioco, no? Perché. Ma sono uscito come è uscita Ellie di fatto, quindi eravamo in due praticamente che ce ne andavamo nel bosco senza tre dita e capito, soli e orfani e senza, diciamo, quello straccio di amore e di affetto che c'eravamo faticosamente costruiti, insomma, negli anni, quindi mi ha lasciato così. Devo dire, forse, ecco, se posso muovere una critica, ma è una cosa del tutto personale, può essere assolutamente non condivisa, mi rendo perfettamente conto, è il gancio del padre di Abby. Quella parte lì l'ho trovata forse la cosa meno riuscita, diciamo, in un'opera che invece ha, non lo so, è un cerchio perfetto, forse è un surplus, è una cosa in più, cioè, nel senso, volevano umanizzare ancora di più, in realtà poi hanno aggiunto un elemento che potono mettere anche in DLC, cioè, sì appunto, cioè, non ha senso, cioè, nel senso, il gesto che fa Joel alla fine del primo capitolo, che uccide di fatto potenzialmente forse l'unico medico rimasto vivo in tutta l'America, non lo so, forse un medico di colore, vorrei aggiungere, nella scena dell'uno. Ecco, quindi praticamente, capito, già quella è una cosa super potente, non serve andare a fare, capito, a creare questo raccordo che lui era il padre di Abby, cioè il personaggio di Abby è un personaggio così perfetto, così riuscito, così contestualizzato, che secondo me aveva potenzialmente anche non necessariamente bisogno di essere accostato a questo padre chirurgo che viene a mancare in modo così tragico proprio per mano di Joel. Poteva essere veramente, che te posso dire, la sorella la fidanzata di uno che Joel ha ammazzato nel suo periodo di brigantaggio, per dire, no? Quando stava insieme a Tess sul primo capitolo, che facevano i loro belli e cattivi tempi, insomma. E come dicevate voi, giustamente, lui prima era un brigante, tant'è che lui si confessa pure all'interno della scena della macchina, no? Del primo capitolo, che quella ci hanno fatto anche un trailer apposta, no? Con quella scena, con quello che fa finta di essere ferito, Ellie subito: oh dai, fermati, accostiamo, aiutiamolo, no? E lui invece accelera lo prende in pieno, e infatti lei poi alla fine, dopo tutta la sparatoria, le cose, dice: ma come cacchio hai fatto a capire che quello era È lì che ti insegnano che lui era l'infame. E lui gli dice: io una volta, cioè, io ero quello che faceva sta cosa, esatto, capito, qualche anno fa, bella mia. Quindi, per cui potevano benissimo far sì che Abby fosse, capito, un personaggio che aveva perso qualcuno per mano di Joel, poteva essere chiunque, perché bastava quello, esatto, secondo me. Esatto, sì, no, ma anche perché, cioè, voglio dire, ne aveva ammazzati talmente tanti e poteva essere chiunque, appunto, perché dovevi andare a ricostruire anche in maniera un po' farlocca un contesto che non era, cioè, che era Non lo so, sì, sto d'accordo con te. L'avevo un po' sottovalutata sta cosa in realtà, perché nel turbine globale alla fine era, non dico passava in secondo piano, però in effetti hai ragione. Non l'avrebbe resa anche più forte, secondo me, in realtà. Sì, probabilmente, sì. Però è così riuscita di suo che legarla, capito, a questo passato, secondo me, boh, funziona, però... No, ma il tentativo può anche essere corretto, è che è maldestro, cioè secondo me è l'unica cosa a livello di scrittura che in effetti non, cioè, che in effetti è fatta male, cioè non è che è fatta, funziona o non funziona, è fatta male semplicemente. Vabbè, sai, lei comunque dovevano darle un elemento di fragilità importante. Sì, sì. Per cui il fatto di aver perso suo padre, che era praticamente poi considerato un po' un benefattore, no, se vogliamo, insomma, anche a livello... quello che faceva di professione, no? Per cui il fatto che lei continuasse a risognare l'incubo che lei entrava e trovava il padre morto nella sala operatoria, cioè quella cosa lì crea comunque una, in qualche modo una, un'anima molto fragile di sto personaggio, che invece esteticamente è così burbero, è così grosso, è così quasi deforme, no? Da quanto è potente, lei è possente anche fisicamente, no? Per cui da quel punto di vista è interessante, però ecco, sì, come dici tu, poteva essere diversamente. Sì, che poi no, beh, stavo a leggere la chat, però vabbè, poi dopo poi ci ritorniamo. E sono d'accordo. In realtà poi alla fine mi ha fatto venire in mente Left Behind del primo, no? Che poi alla fine ci hanno fatto il DLC e poi dopo è uscita la versione tutto integrale, no? Tutto integrato. Cioè, sì. In realtà secondo me era stata pensata come una cosa accessoria sta cosa, perché è un po' sì, è contestualizzata, però è un po' messa così, cioè, in effetti hai ragione, però l'avevo proprio, ecco, quel processo di remozione di un qualcosa che lì per lì magari è quel sassolino da scarpa, che prendi, te la via scarpa, la per sassolino e continui a camminare e sei contento uguale, esatto. Cioè, fondamentalmente. E Valerio? Eccoci. Allora, io in realtà ho due cose che secondo me non abbiamo neanche toccato, che potrebbe essere interessante toccare, ma una è breve. Allora, partiamo col discorso che secondo me, e questo è sempre si entra nel personale, è stato interessante vivere il fatto delle scelte che ha avuto Ellie, partendo sempre dal presupposto che Joel non l'avrebbe voluto. Nel senso che, ovvio, prima mi è venuto in mente perché avete detto proprio, no? Eh sì, ma Joel al posto suo sarebbe andato, avrebbe raso al suolo lo stadio dei lupi. Sì, sicuro. Ma Joel... avrebbe voluto che fosse questo il fatto di Ellie? Vabbè, però sì. No, ovvio, no? Cioè, è ovvio che non lo sia. Ma quello che mi fa... mi ha fatto strano mentre giocavo è rendermi conto di quanto la rabbia e la vendetta in realtà fossero estremamente, quasi unicamente, egoistiche. Cioè, Ellie non si è fermata praticamente mai, se non sbaglio, pensare a cosa avrebbe voluto Joel per lei. Era unicamente incentrata su se stessa. Ma questo non solo su Joel, no? Ha perso i rapporti con tutto quello che la circondava, ha tagliato i ponti con tutto, bruciata in questa spirale. Però ecco, era la chiave di lettura su quello che ha fatto Joel, che a me personalmente, mentre giocavo, mi ci è venuto proprio più volte. Cioè, io ho questo privilegio, tra virgolette, che posso dire ad alta voce registrandomi mentre gioco i pensieri come mi passano in testa, e proprio mi verrebbe a dire a volte proprio, ma non ti rendi conto che stai facendo proprio, cioè, quell'uomo se potesse vederti si starebbe rigirando nella tomba. Ed era per me, giocatore, straziante questa cosa, anche perché per quanto abbiano criticato Joel, io sono uno di quelli che Joel in realtà l'ho molto interiorizzato, l'ho molto apprezzato, perché ho apprezzato il suo percorso. Quindi volevo giusto dare questa chiave di lettura su quello che è stato per me il viaggio, come una delle chiavi con cui l'ho affrontato. Ma quello che volevo invece chiedervi, se a voi fosse mai capitato, è, perché a me è capitato, avete conosciuto persone che si sono rifiutate di giocare The Last of Us 2 per quanto si erano innamorati dell'uno e per come loro avevano già deciso che dovesse concludersi la storia? Perché a me è successo. Allora, direttamente no, però non fatico a pensare il fatto, è come quando io ho saputo della notizia della parte 2, cioè è stato talmente impegnativo, no? Cioè, nel senso che non come gioco, dico, insomma, come esperienza, che alla fine sapere che ti saresti dovuto trovare di fronte a quella tortura moltiplicata per 5, perché chiaramente non poteva essere allo stesso livello, doveva essere peggio, no? Cioè, e questo, insomma, mi fa pensare che ci poteva essere comunque qualcuno. Non lo so, Enrico, tu hai conosciuto qualcuno che si è rifiutato? O tu hai avuto la tentazione di non giocarlo, ad esempio? No, assolutamente no, no, no, io aspettavo. Io ho comprato la Play 4 solo per questo gioco, praticamente. Però no, no, neanche dei ragazzi per i quali gioco online o per i podcast, no, non ho sentito nessuno che si sia rifiutato di giocarlo. Carlo? No, no, io, diciamo, ho conosciuto persone più che altro che si sono rifiutate di giocare al primo The Last of Us direttamente. Perché, direttamente, sì, perché magari, sai, comprandolo sulla scia di, non lo so, con la promessa di poter giocare a un gioco magari un po' più, tra virgolette, più adulto, più cinematografico, però poi magari andando poi un po' a capire quello di cui parlava, quello di cui, il modo in cui lo faceva, lì magari c'è stato un po' un passo indietro, soprattutto magari persone con figli, insomma, magari che sono un po' più sensibili, ah, beh, sì, alla, certo, la cosa, e per cui sì, però persone, beh, che, io ho conosciuto, diciamo, hanno persone che si sono rifiutate di giocare a The Last of Us perché no, è la solita storia dei zombie, cioè. Poi, ecco, quello sarebbe da fargli una, beh, un po' è un errore. infatti quello è un errore, vabbè, ma è, cioè, voglio dire, insomma, di che parliamo, insomma, è difficile poi far capire il genere dei non morti o degli infetti o degli zombie, comunque è stato demonizzato per anni, un po' come lo sono poi da molto più i videogiochi in sé per sé. Quindi, cioè, noi adesso qui parliamo di dal punto di vista narrativo, dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista filosofico, no? Di qualcosa che poi magari per molti è un videogame per i ragazzini, quindi questo pure è un altro, pure questo è un altro problema, come i cartoni animati erano per i ragazzini, esatto, no? Cioè, quando eravamo ragazzini noi, no? La stessa cosa, che poi tra l'altro The Last of Us 2 ci ha avuto pure questa coincidenza di uscire in piena pandemia, chiaramente, quindi è stato anche segnato un po' da questa cosa. Non so se in bene o in male, ma certo non è facile, soprattutto dopo comunque la prima fase di lockdown, nella prima ondata, insomma, è stato impegnativo, perché comunque molti di noi si sono trovati a vivere una circostanza che per noi non era naturale, no? E per quanto poi uno si impegnasse nel senso anche di sacrificio, no? Per il bene di tutti e il bene di noi stessi, è chiaro che poi alla fine ti ritrovi un gioco che la popolazione è ridotta al 10% per colpa di una pandemia, diciamo, di qualsiasi genere, insomma, fa sempre un po' effetto, no? Questo è una cosa che va comunque considerata. Però sono interessanti con quegli spunti di Valerio, perché allora, sul primo spunto posso dire che è il comportamento del padre, tra virgolette, del nonno, tra virgolette, del fratello maggiore, no? Io non voglio che tu faccia questa cosa, però io la farei. E quindi alla fine è questo contrasto, questo doppio insegnamento che poi alla fine è una contraddizione, no? Cioè, nel senso, lei, se Joel gli avesse detto non voglio che tu lo fai, e lei gli avrebbe detto ma tu l'avresti fatto. Cioè, e quindi comunque dentro di lei c'è questa doppia anima, è anche credibile questa cosa, no? Ti ho detto, poi lei è diventata Joel se non peggio, quindi moltiplicando la distruzione e l'autodistruzione, e questo qua alla fine comunque segna il personaggio in una maniera oramai indelebile, e secondo me è intelligente, perché finisce. Poche volte ti capita, non poche volte, però non tantissime volte ti capita di vedere un finale e dici è così, non è giusto, non è sbagliato, è così. Non è che è così, fratellino, però è così. Non so se siete d'accordo su sta cosa, tutti e tre. Chi parte? Parte Valerio, dai. No, io in realtà sono assolutamente, assolutamente d'accordo, nel senso che l'aspettatore puoi essere in conflitto quanto vuoi, ma lo accetti, cioè lo accetti quasi, cioè sei talmente sfinito da queste emozioni che alla fine dici oh, cioè doveva andare così. Però io ogni bivio, ogni scelta fatta da Ellie l'ho sofferta tantissimo. L'ho sofferta perché io, per esempio, se si entra poi nello stato proprio di soggettività più pura, cioè cosa avresti fatto tu al posto suo, no? Se ti avessero calato lì e al posto di Joel ci fosse stato una persona di egual valore, perché non puoi dire neanche tuo padre, perché Joel in realtà è di più se vogliamo, cioè è sì, una figura sì. molto particolare per sì, Ellie. Sì, assolutamente, è questo che abbiamo detto, abbiamo ripetuto più volte, insomma, sì. Quindi cosa avresti fatto? Io non avrei fatto quello che ha fatto Ellie, ma penso neanche una cosa, neanche una. Però le ho capite tutte le sue azioni, no? Le ho vissute, le ho interiorizzate, ma diavolo se mi ha fatto male. Mm-mm. Perché vedevo quanto ogni passo che lei stava percorrendo la stesse allontanando dalla sua stessa possibilità di un giorno essere felice. Sai quando uno dice si è dato all'autocommiserazione o si è depresso, quelle sono in piccolo cose simili, cioè tu comunque ti stai da solo tarpando le ali, stai là che rimugini su queste cose terribili che ti succedono e non vedi i piccoli passi che puoi fare per migliorare la tua vita. Lei non solo era in un qualcosa del mi sto facendo del male, ma lei stava proprio solo cercando quello, e per quanto appunto, parlando a volte con la mia compagna, lei invece era a mille, tipo sì, io sono con Ellie, sarei là, pezzerei il mondo, perché lei è del tipo vendicativo, ma sono le persone un po' più esplosive. Io che sono uno molto riflessivo per natura, che ci penso 10 volte e valuto i pro e i contro e ho detto, no, che cosa stai facendo ragazza? Ti stai solo distruggendo. Ed è stata la cosa che sì, l'ho capito, e però come vi ho detto, cioè la scena che mi ha rotto è stata proprio quando ha lasciato la donna e figlio. Però nel senso ci sta, cioè alla fine non è che gli puoi dire che non ci sta. Ci sta, e ti ha anche come giocatore ti ha insegnato qualcosa, cioè ti ha insegnato, ti ha fatto vedere in un modo diverso da qualsiasi altra esperienza tu potessi aver mai avuto prima di The Last of Us 2. Ti ha fatto vivere cosa vuol dire davvero un circolo d'odio, che è una cosa che appunto io penso che abbia insegnato di più alla mia compagna che a me, perché lei voleva fare quelle cose, certo. Ok, ora vedi cosa succede, però lo vedi a cosa si va incontro. Magari questo ti farà riflettere nel tuo piccolo quotidiano. Magari The Last of Us 2 qualcosa te l'ha insegnata proprio, capito, sul modo di gestire delle emozioni, magari. Cioè, questo non è una cosa che tutti i giochi possono dire di aver fatto, direi, no? Assolutamente sì. Io ci vedo anche la sindrome inversa di Roy Betty. Sindrome inversa nel senso che Roy Betty alla fine, quando sa che non c'è più speranza per lui, risparmia la vita a Deckard perché lo trova inutile spegne le due vite nello stesso momento. Lei secondo me a un certo punto si ferma perché non c'ha più l'energia, cioè non c'ha più la forza, perché tutto questo mostro che lei si porta dentro, tutto questo odio l'ha talmente consumata, facendogli fare delle scelte che noi non condividiamo ma che per lei sono inevitabili, alla fine la fermano, cioè lei si rompe proprio, cioè lei a un certo punto muore rimanendo in vita. E questa secondo me è la cosa che cazzo, un personaggio così sui videogiochi tanto di cappello. Cioè per me lì, in quel momento, solo in quel momento, in umanità, in grandezza, nella sua piccolezza, cioè nella sua sconfitta, ha superato Joel, ma solo in quel momento, perché per me poi Joel, cioè, rimaneva comunque, detto, era mio fratello, mio padre, mio zio, mio cugino, tutti messi insieme, insomma. Quindi alla fine questo è un po', vabbè. Enrico. Allora, come giustamente dicevi tu, il gioco non ti dice, non si pone che ti dice cosa è giusto, cosa è sbagliato, no? E vuole farti capire, la cosa principale è che con questa dinamica di odio genera odio e è una spirale che non si ferma. Però io sono un po' più come, sarei, credo, un po' più vendicativo, nel senso, se succedesse a me, io credo farei le stesse, non so, ma cercherei di vendicarmi come ha fatto. Sì, poi non è facile contestualizzare, veramente. Sì, cioè, sì, ma cioè, io non farei male una mosca, però no, no, caso, cioè, se uno uccidesse poi in un mondo come quello, io veramente questo me lo sono chiesto. Devi anche aggiungere l'assoluta totale inesistenza di regole, poi alla fine, cioè la società quando crolla con tutte le sue sovrastrutture, no? Quindi le leggi, le regole e diciamo anche gli obblighi morali che tu hai nei confronti della collettività, che vengono assolutamente meno, e di conseguenza. E questo scioglie l'animale, no? Che alla fine è il mastino della guerra, come dice qualcuno. E questo, insomma, è una cosa assolutamente importante da tenere in considerazione. Carlo. Beh, sai, come dicevamo, come avete detto tutti anche, cioè comunque questa è una storia umana, è una storia di rottura. Una rottura che crea anche una disumanità, se vogliamo, e appunto, come hai detto giustamente tu proprio adesso, anche il distacco morale ed etico verso tutto quello che può in qualche modo incanalarti su un binario sociale. Poi diciamo un altro elemento sicuramente importante da tenere conto proprio nel personaggio di Ellie è che lei, contrariamente a Joel, non ha mai avuto in qualche modo, cioè, un qualcosa di diverso da quello che è la società in quel momento. Se vi ricordate, sul primo gioco lei continuava a fare domande a Joel quando vedeva i cartelloni, dice: ma che veramente per voi le donne non mangiavano, tipo, per essere così magre, cioè avevate così cibo e non mangiavate, oppure leggeva il diario della ragazzina, esatto. Quindi i problemi che avevate il cinema, la musica per la festa, esatto. Il cinema, le cose, per cui lei non ha proprio una struttura di quello che poteva essere il mondo prima, cosa che Joel ce l'aveva ovviamente. Certo, poi Joel a sua volta era un personaggio ancora ovviamente più rotto per un'altra motivazione similare. E per cui però Ellie, diciamo, ecco, per questo diventa peggiore di Joel, perché non ha proprio quel freno in qualche modo inibitore che un po' quel barlume, diciamo, di lucidità che possa in qualche modo riportarla a una situazione di calma o di ragionamento. Cioè non ha niente di tutto questo, per cui si viene a creare questa cosa qui. È molto, molto interessante, è tutto estremamente calcolato dal punto di vista della scrittura dei personaggi. Questo sicuramente la rende un'opera clamorosa. Allora, io a questo punto, prima di parlare del comparto audio, insomma, perché giustamente penso che Carlo si sia appuntato a determinate cose correlate comunque al suo lavoro. Poi alla fine lo dicevamo pure l'altra volta, no? Quando abbiamo fatto l'altra puntata sull'audio, su Atmos, il fatto comunque di Microsoft e Sony, i vari processori sonori che hanno inserito all'interno delle proprie console e via dicendo, comunque quanta differenza ci sia e quanto sia minore rispetto al passato tra il sound designer cinematografico televisivo e quello videoludico, anche se lavorano su presupposti che sono diversi. Ecco, allora, prima di a me mi fa strano, perché ve lo devo dire la verità, però, cioè, nel senso, questo è un podcast che parla anche dei videogiochi e quindi in teoria dovremmo parlare anche della parte grafica e anche del gameplay, però io faccio un po' devo dire onestamente, quindi vi lascio un po' più liberi da questo punto di vista, perché mi sembra quasi riduttivo, cioè è un videogioco, cioè, quindi c'è la parte importante, però veramente mi sembra stupido, cioè, però devo accettare anche il fatto che sembra stupido a me, non è detto che sembri stupido a Valerio o a Enrico o a Carlo, insomma, quindi ditemi voi, perché io poi mi rifaccio, insomma. Sicuramente dal punto di vista grafico vorrei appuntare alcune cose, quanto veramente Naughty Dog nella sua scuola che si è autofatta con le console Sony è arrivata a far fare alla console cose che la console non fa, no? Quindi chiaramente sono tutta una serie di cose preprocessate, tutta una serie di artifici tecnici che chiaramente portano un ray tracing laddove non ci potrebbe essere e comunque una qualità grafica e fotografica assolutamente incredibile, un fotorealismo alla levate proprio, insomma, nel senso, ecco, se vogliamo parlare un po' di questo, che è una cosa interessante. Poi se Valerio vuole parlare anche qualcosa sul gameplay, sul modo in cui ha approcciato, non, per me non c'è problema, insomma. Valerio. Eccoci. Allora, per quanto riguarda, io non sono un tecnico, ho visto che fate dei podcast a volte molto tecnici e anche molto interessanti. Io non sono così tecnico, sono più un fruitore. Diciamo, io al massimo so scrivere un po' in C++, ma a parte quello non entro nel tecnico dello sviluppo dei giochi. Ma è fatto dannatamente bene The Last of Us 2. Nel senso, io sono, come ho anticipato in corso di serata, una brutta persona, perché sono un giocatore per lo più computer, PC, e quindi ho avuto un'esperienza molto diversa dal punto di vista del gameplay, perché ho adattato il gioco a giocare con mouse e tastiera, che è stata un'esperienza molto interessante dal punto di vista proprio della programmazione, perché ho dovuto programmare tutta una serie di macro e script per farlo. Però a parte quello, come dire, il gioco lo ha permesso, già cosa che mi sono in parte stupito, il gioco era fluido, nel senso che dopo i primi momenti in cui si è un po' impacciati, penso un po' in tutti i giochi, no? Tu ti trovi pad alla mano, mouse alla mano, entri, non è stato immediatamente fluido per me, ma ha avuto la capacità di dare un sacco di ottimi feedback a me come giocatore. Quindi alla fine è diventato davvero intuitivo. Dopo le prime ore di gioco mi sono trovato più a mio agio in The Last of Us 2, con tanto di giri strani, mouse, tastiere, che con molti altri giochi. E parlando di questo, voglio dire che credo sia uno dei giochi più inclusivi, penso, della storia, da accessibilità totale, cioè ci si può giocare da ciechi a The Last of Us 2. Questo è vero, questo bisogna dire. È una cosa può giocare da ciechi, che secondo me, cioè, se ci pensate, è tipo fantascienza. Hanno fatto un lavoro incredibile da quel punto di vista. Questa è la cura. Quindi, la cura e la passione anche nel lavoro. C'era un'opzione per qualsiasi cosa possa venire in mente. Cioè, perché io sono daltonico, dicevi che ormai tutti i giochi hanno opzioni per i daltonici. Io sono andato un po' invece a sfrugugliare, a andare un po' nei settings, e rimasi, mi ricordo, proprio lì per lì, basito, perché sì, se n'era un po' parlato, che ci avrebbero prestato attenzione. Non mi sarei mai aspettato. Ho visto un video, ma penso neanche troppo tempo fa, forse un mesetto fa, in cui addirittura proprio si vedevano che c'era una voce, che se tu sei una persona non vedente o ipovedente in generale, cioè addirittura ti dà le indicazioni di dove ti trovi, se sei in ginocchio, se sei in piedi, se sei nell'erba alta, se dove sono i nemici, quanti colpi hai nel caricatore, cioè in più alle vibrazioni, ricordiamo, cioè, per cui magari c'era un sistema di vibrazioni che ti dava, vi ricordate, no, il classico coso quando attivi, non mi ricordo come si chiama l'abilità, quella sorta di senso amplificato, sì, che puoi utilizzare, sì, se non sei nella modalità più difficile. Sì, l'udito praticamente sarebbe proprio. Esatto. Quello pure, no, ti dà la vibrazione in base a dove stanno i nemici. Cioè, immaginate, signori. No. Cioè, quella cosa mi ha fatto proprio esplodere la testa. Bisogna dire però questa cosa. Allora, noi ci facemmo una puntata tantissimo, forse un paio d'anni fa, tre anni fa, proprio sul fatto che il videogioco deve essere un diritto di tutti, no? Comunque in qualche maniera, perché è un'esperienza interattiva. Dice sì, vabbè, ma se tu non ci vedi, che cioè, e perché? Cioè, nel senso, alla fine, perché un sordo sì e un ipovedente no? Magari forse un non vedente magari è un po' più complicato, no? Però nel senso, alla fine è il mettere a disposizione uno strumento a tutti, soprattutto uno strumento di così affascinante. Tra l'altro, quando uscì il gioco, multiplayer.it ci fece proprio un video molto lungo su questa cosa, non so se l'hai doppiato tu, Carlo, o qualcun altro, proprio tutto dedicato su questa cosa delle impostazioni per i vari, insomma, disfunzionalità, no? E devo dire la verità, insomma, si era visto da subito che avevano fatto un lavoro veramente della Madonna, fino a livelli estremi, cioè proprio, questa è la cosa veramente incredibile, perché come dice giustamente Valerio, l'impostazione per i daltonici ce l'hanno un po' tutti, ma poi bisogna vedere pure come, no, nel senso, sì, a parte quello, cioè, nel senso, cioè, che tu mi metti il verde e il rosso invece che, cioè, adesso faccio un esempio stupido perché non essendo daltonico non magari non lo so, però cioè nel senso hai messo un'impostazione, ma magari un'impostazione generica, poi magari chissà quali tipi di difetti hanno bisogno di magari tutta una serie di settaggi, di impostazioni, così come hanno fatto su The Last of Us. E questo veramente hai fatto bene a ricordarlo, perché tanto di cappello, veramente una cosa incredibile, e hanno tutta la mia stima da sto punto di vista, perché è una cosa sulla quale noi ci battiamo da anni, quindi bravo. E ci deve essere stato molto molto molto lavoro e signori anche soldi, questo è per me il motivo principale anche per cui moltissimi titoli non avranno mai questo livello di cura e dettaglio, certo, e di considerazione, è perché comunque c'è i tempi, adesso non voglio sempre nominare il povero Cyberpunk, però nel senso si vede quando le cose poi vengono un po' fatte, no? con dei problemi o con la fretta, succedono tutt'altro, anche se si hanno soldi, ci vuole tempo, mezzi, tecnica, certo, certo. E lì alla Naughty Dog si è visto che insomma anche sanno il fatto loro, anche esperienza, perché tu comunque anche tantissime esperienze arrivi a implementare certi livelli di dettaglio quando hai alle spalle un background di 15 anni del lavoro fatto progressivamente, perché loro a ogni gioco hanno inserito sempre degli elementi e se li sono portati avanti poi piano piano progredendo sempre, non si sono mai accontentati da questo punto di vista, quindi questo ecco bisogna di veramente software house tanto di cappello. Prego. E, per chiudere il discorso gameplay, poi lascio la parola ai miei colleghi, ringrazio il cielo perché ci fu il momento in cui si parlò di open world per The Last of Us 2. Ringrazio il cielo che questo non sia avvenuto, che abbiano semplicemente aperto un po' di più le aree, due tre aree, poi neanche così tante, perché pensate, ed è il motivo per cui io, in generale, gli open world, ragazzi, diciamo, non mi piacciono molto, poi opinabile, ma non mi, perché c'è negli open world c'è meno cura e il dettaglio tecnico, comunque grafico, certo, non solo, certo, ci sono sempre, è sull'open world che escono i problemi, escono le storie poco curate, escono cose fatte in modo raffazzonato, e loro se ne sono guardati bene, sì, è vero. E pensate, l'ho citato prima, pensate a un Cyberpunk fatto invece che come Cyberpunk alla Deus Ex, e già capite quanto avrebbero potuto fare di più a parità di tempo e soldi spesi, no? Lì quindi ho apprezzato moltissimo, beh, questo lo potevo dire proprio perché invece c'era stato quel momento di timore da open world, che quando poi in gioco mi sono sentito molto, molto rinfrancato, ecco. Assolutamente d'accordo su tutti i punti che hai sollevato. Enrico? Ma allora, dal punto di vista tecnico, che vogliamo dire? Loro, i Naughty Dog, sono come se fosse uno studio interno, quindi spremono la macchina in modo incredibile. Premetto che io ho giocato il gioco con una Play 4 normale su una TV Full HD, quindi sono un poveraccio, però ho apprezzato tantissimo. Già alla fine del ciclo della PlayStation 3, quando è uscito il primo della Last of Us, era la stessa cosa, cioè hanno tirato fuori una cosa incredibile, che è molto meglio dei trailer o dei primi giochi per la generazione dopo. E poi ho avuto la fortuna di vedere il gioco a casa di un mio amico, che invece lui aveva la 4 Pro con TV 4K, e là veramente sono rimasto abbastanza stupito da vedere i dettagli tra la ruggine, le goccioline di pioggia, i riflessi sulle pozzanghere, veramente una cosa, una cura del dettaglio incredibile. Penso che farà scuola per anni, dal punto di vista del design, anche dal punto di vista grafico, quindi insomma tutte le persone che si approcceranno a questo lavoro penso parleranno per anni di questo lavoro. A voglia, anche la ricostruzione della città, c'era veramente pochi edifici veramente uguali, e poi anche come hanno ricostruito loro lo stato di abbandono, no? Gli edifici crollati, il muschio, la ruggine, è stata una cosa incredibile. Anche l'animazione di Ellie, pensate, quando trovavamo i banchetti, i piccoli banchi dove fare l'upgrade delle armi, c'era un'animazione diversa per ogni arma, un'animazione diversa per ogni tipo di oggetto in uso, per ogni tipo di cassetto che veniva aperto, cioè veramente, come dicevamo prima, i soldi, sì, i soldi fanno la differenza. i soldi, esatto, sì, no, ma è così, no, ma non solo i soldi, il tempo anche, cioè il fatto che Naughty Dog comunque abbia una, insomma, anche una chiesa dentro la quale lavorare, che è quella dei Sony, sì. E poi alla fine comunque gli dà comunque il tempo e la tranquillità in maniera programmata, più sistematica, e gente che è dedicata a fare ogni volta la cosa in più, e quindi veramente tanto di cosa che per esempio non ha mai sfruttato il nostro amico caro Carlo Burigana, il nostro amico David Cage che nonostante i soldi di Sony insomma si è dedicato a fare un sacco di stronzate tutto sommato, anche se devo dire che con tutto sommato Detroit insomma alla fine è un'opera buona, cioè nel senso comunque non rispetto sì, vabbè, ma agli scivoloni dai, insomma del passato, scusa. Beh, la scuola dei punta e clicca proprio, voglio dire, David Cage insomma è una sorta di, lui proviene da lì, secondo me si rifà molto a quella roba lì, però con una incredibile bordata emotiva insomma e scelte morali. Questa è una storia preimpostata, non ci sono scelte morali che tu puoi decidere di fare. Che a volte può anche essere meglio, no? Perché no, va benissimo, la storia non deve essere per forza interattiva, cioè, non per forza uno deve necessariamente deve mettere il becco dentro. Esatto. Quindi, anzi, è più autoriale così, perché tu in realtà c'è cioè, un autore che ti ha raccontato una storia. Tu all'interno di quella storia aiuti il personaggio a fare cose che comunque deve fare, no? Tutto sommato sì, ci sta, assolutamente. Insomma. Che non lo rende meno divertente, insomma. Sentite, vabbè, ragazzi, se ci avete un po' di curiosità, io direi che lo facciamo, Carlo. Che dici, lo facciamo? Facciamolo. Ma sì, dai, lo facciamo. Facciamo così, poi facciamo così e facciamo. Penso che sia questo. Mamma mia, quanto tempo che non la sentivo sta cosa. Mamma mia, brividi. proprio siamo tornati indietro anni con Passione sì. Sound Design all'interno di Ludico Forum, così proprio ci è come rinascere quasi, no? Perché tutto è partito all'interno e poi è andato all'esterno. Allora, come sapete Carlo, insomma, sapete il lavoro che fa, sapete la sua passione in particolare, quindi chiaramente da adesso in poi lui ci darà informazioni che sicuramente ci incuriosiranno, perché noi non sappiamo, e se avete poi delle domande, magari delle curiosità che volete levare voi, insomma, potete tranquillamente farle e lui non vi risponderà. No, non è vero, scherzo. No, non è vero. Mi risponderà. Sono qui per questo. Allora, innanzitutto ridò il benvenuto a tutti gli amici di Passione Sound Design. Un po' questo è un po' l'intro che facevo al tempo. E sono molto contento di tornare insomma sugli scudi con questa puntata light live di Passione Sound Design. Però era necessaria, secondo me, soprattutto se contestualizzata su un titolo di questo tipo che possiamo senz'altro definire, questo non è solo una mia opinione, questo è un fatto, signori, è il gioco, come dire, meglio realizzato dal punto di vista del sound design di tutta la passata generazione. E in assoluto, insomma, e quindi in assoluto un capolavoro, tanto dal punto di vista artistico tanto dal punto di vista tecnico, esattamente, poi insomma, come potremmo definirlo, un capostipite per quello che riguarda appunto tutti gli aspetti che abbiamo fino adesso illustrato, insomma. Quindi e ho raccolto un po' di informazioni, diciamo, questa volta, diciamo, più inerenti al sound design che al doppiaggio in sé. Faccio solo una piccola chiosa sul doppiaggio, riagganciandomi a quello che Simone diceva riguardo, insomma, all'inizio della puntata, riguardo al doppiaggio italiano di questo gioco, è sicuramente fatto molto molto bene. Questo, diciamo, questo fare molto bene sicuramente è figlio di una sensibilità che adesso stanno avendo molti produttori di videogame riguardo alla localizzazione degli altri paesi rispetto insomma a quella che è la localizzazione originale, diciamo, che ha il videogioco, per cercare di in qualche modo dare la possibilità a chi come il paese come l'Italia, come la Spagna, come la Francia, insomma tutti i paesi che doppiano i loro prodotti, di comunque avere di lavorare e di poter far lavorare i professionisti al lavoro, nello specifico gli attori doppiatori, con del materiale che è quanto più vicino a quello che potrebbe essere un doppiaggio di un film, quindi avere comunque delle scene scriptate, avere delle scene estrapolate in cui i personaggi i footage vedono come? i footage. Dei footage, bravo, sì sì, esatto, sì, che è quello che fa la differenza poi banalmente. Generalmente, insomma, chi ha seguito Passione Sound Design, e anche voi qui che mi state ascoltando, sia voi miei colleghi di puntata che tutti i nostri ascoltatori, insomma, sapranno probabilmente che il videogioco, diciamo il doppiaggio del videogioco, viene inteso come una serie di file audio che il doppiatore ascolta all'interno della cuffia dentro la sala, e quando sente help lui fa aiuto, e quindi non sa questo aiuto se è uno che si stanno scannando, se è uno che sta cadendo dal quinto piano, se è uno che si sta sentendo male per strada. Ovviamente in questo caso, diciamo, a intercedere c'è il direttore di doppiaggio, che ha una funzione in qualche modo di raccordo, di collante per far capire le scene, i contesti all'attore che ci sta lavorando. Ovviamente anche lo script stesso è diviso in colonne, dove c'è la battuta sulla destra e sulla sinistra c'è un abbozzo, diciamo, descrittivo di quella che è la scena in questione. Però non è come doppiare un personaggio che tu vedi in video, diciamo, non è lo stesso donare l'intensità, la drammaticità o l'emozione del personaggio. Non capisci l'intenzione della recitazione. Cioè, questo è un po'. Esatto. Cioè, non vedi le mimiche del corpo, del viso. Non vedi niente. Esatto. Sì. Vedi dei file audio e tu devi immaginare se sei bravo, lo fai bene. Se non sei bravo, lo fai bene. Esatto. Non è, ci sono mezzi termini, purtroppo. Ed è il motivo per cui tanti doppiaggi, al di là della fase in cui i doppiaggi li facevano i cani, comunque, anche quando hanno iniziato a farli i professionisti, è il motivo per cui tanti doppiaggi a noi ci sembravano, come posso dire, fuori contesto, diciamo così, insomma, non ci sembravano proprio in bolla. Sì, assolutamente. Ma poi, vabbè, diciamo, tralasciando quel periodo un po' allucinante, insomma, della traccia, fine degli anni 90, esatto, fino a che comunque, esatto, poi in realtà hanno cominciato a metterci le mani, diciamo, gente che in qualche modo voleva donare la giusta dignità, diciamo, al prodotto. Quando poi probabilmente è scattata la molla, che ha fatto capire probabilmente a molti che il videogioco non era solo, capito, lo spara-spara, ammazza-ammazza e il passatempo per i ragazzini, ma poteva essere potenzialmente un veicolo comunicativo anche importante. Magari al tempo non se ne vedeva l'importanza che magari se ne può vedere adesso, e The Last of Us 2 sicuramente, e ancora prima The Last of Us 1, sono due sicuramente esempi fulgidi, diciamo, di questa cosa. Però diciamo che anche quando poi sono entrati in gioco, se vogliamo, diciamo, dei professionisti di maggior spessore all'interno della scena del doppiaggio italiano, c'è sempre stato un po' così, un considerare il videogioco un po' come se fosse una sorta di cartone animato 2.0, quindi c'erano molte voci carattere, per carattere intendo, diciamo, voci che magari hanno lavorato, comunque hanno un passato, diciamo, di lavorazioni sull'animazione giapponese televisiva, per cui insomma si veniva sempre un po' a creare quella sensazione un po' di finzione voluta, però, no, sul videogioco, quindi non prendevi sul serio quello che stava succedendo sullo schermo. Quindi, diciamo, ecco, da quel punto di vista, per fortuna c'è stata una grande evoluzione, e non solo in The Last of Us. Comunque ho sentito tanti giochi ultimamente che comunque in qualche modo restituiscono assolutamente dignità al videogioco, e anzi cercano possibilmente, insomma, di andare anche un po' a creare il sapore dell'opera, magari non dico cinematografica, però televisiva di buon livello. Detto questo, questa è una piccola, diciamo, considerazione personale. A me, rispetto a te, Simone, a me continua, non lo so, non piacere, ma non è una questione di utilizzo di voci che o di bravura delle persone al lavoro, per carità, però continuo a non essere particolarmente soddisfatto dal doppiaggio di questo gioco in sé. Ma è una questione, purtroppo, che non si poteva fare altrimenti. Perché? Se tu senti questo gioco in lingua originale, ti accorgi come è un gioco, nel gergo del doppiaggio si dice, sul fiato. È tutto sul fiato, tutto. Gli attori parlano con un filo di voce, sempre, per dire qualsiasi cosa. E questa cosa, diciamo, crea in qualche modo una sorta di carisma, una sorta di drammaticità, insomma, va in qualche modo ad acuire il contesto in cui il gioco ti sta facendo entrare. Questa cosa in italiano ovviamente non è replicabile, perché sennò sembrava un branco di sbociati, insomma, sarebbe stata una cosa innaturale, come lo è in alcuni film, anche alcuni film. Infatti questo devo lo dire, stessa cosa succede anche in alcuni film, molto sussurrati, molto passati, però nel doppiaggio alla fine perde questo aspetto. Nel doppiaggio questa cosa tu semplicemente non la puoi fare, perché sembra che stai facendo un errore, per cui comunque nel doppiaggio devi timbrare, devi comunque recitare, devi fare delle cose che... diciamo, questo andare sul fiato degli attori in lingua originale è sicuramente una conseguenza anche della recitazione in motion capture, nel senso ovviamente vabbè, il gioco di per sé ovviamente è stato a sua volta doppiato dalle persone che ci hanno lavorato, dagli attori che hanno interpretato Joel, quindi Troy Baker e Ellie e tutte le altre attori e attrici che hanno partecipato alle sessioni di mock-up per il gioco, però in ogni caso il doppiaggio di quel gioco è stato fatto come se gli attori stessero recitando le loro battute fisicamente, anche, diciamo, in qualche modo, per cui loro, diciamo, questa cosa la possono fare perché è parte del loro linguaggio cinematografico. Noi questa cosa non la possiamo fare perché non è parte del nostro linguaggio del doppiaggio, per cui, diciamo, ecco, credo che questo modo di fare che hanno avuto loro nel primo, nel secondo, comunque crei in qualche modo un qualche tipo di maggiore realismo rispetto invece a quello che è stato fatto in Italia. Da premettere comunque che, questo lo ribadisco, comunque questa non è una considerazione che in qualche modo va a inficiare sulla qualità del lavoro che hanno svolto gli attori e le attrici, doppiatrici, doppiatori che hanno fatto quello che hanno fatto. Anzi, io per primo avevo elogiato Gea Riva, che è la doppiatrice di Ellie, che secondo me ha fatto sul primo e continua a fare un grandissimo lavoro sul di lei. Lei è molto brava, molto spigliata, è veramente, ha preso il personaggio di Ellie in modo veramente incredibile, proprio da quel punto di vista veramente applausi. Poi, ecco, questa, ripeto, nasce come una considerazione personale, non è assolutamente una valutazione tecnica dell'opera, che comunque secondo me è eccezionale. Ora, invece, passiamo, diciamo, a quelle che sono le chicche che ho trovato riguardo al sound design. Se voi avete delle domande, fermatemi in qualche momento. Sì, infatti, sia Valerio che Enrico, insomma, se avete qualche curiosità anche rispetto a questa cosa del doppiaggio che magari abbiamo appena detto, anche perché poi, diciamo che oramai, vabbè, molti conoscono un po' il modo in cui venivano doppiati i videogiochi fino a un po' di tempo fa, e quanto questo di The Last of Us, da quanto abbiamo capito, è un po' una sorta di caso unico, insomma, ultimamente. Non so se poi dopo sta diventando una buona abitudine quella di comunque concedere dei footage anche preliminari che comunque rappresentano la prefinalizzazione di una scena, magari, che comunque i movimenti sono quelli, i tempi sono quelli, e quindi poi il doppiatore ha più libertà anche d'azione, no? Ragazzi. Sì, no, sta diventando assolutamente un trend, e anche lo stesso Lorenzo Scattorin, che è il doppiatore di Joel, in un'intervista sul primo The Last of Us, alla domanda come cacchio avete fatto a rendere così bene i personaggi, lui ha detto: ragazzi, abbiamo reso così bene i personaggi perché la casa madre ci ha dato i filmati e ci ha dato le scene con gli attori che parlavano in video. Abbiamo reso bene così i personaggi perché mentre che doppiavamo uccidevamo la gente. Questo era un po'. Esatto. Sgozzavamo gli agnelli. Madonna, che cazzo. Poveraccio. Io avrei una domanda in realtà. Vai. Certo. Per come ci hai posto le cose, Carlo? Naughty Dog avrebbe potuto, in fase anche proprio di doppiaggio iniziale, fare qualcosa in più per le localizzazioni straniere? O era al momento proprio non c'è un'alternativa? Beh, innanzitutto ti posso fare un piccolo complimento, mi piace molto come pesi le parole, devo dire, questa è una cosa che Ci sto facendo caso fin dall'inizio. Vabbè, ma fa lo youtuber, mica. Grazie. Esatto. Sì. Beh, guarda, Naughty Dog ha fatto, secondo me, il massimo che poteva fare. Non è una questione. Cioè, Naughty Dog, come Ubisoft, come EA, tante case adesso sono molto sensibili all'argomento doppiaggio per gli altri paesi. Perché questo ovviamente va in qualche modo ad avvalorare il loro prodotto altrove, insomma, non solo nei paesi anglofoni, dove poi sono tutti bravi a sentire, capito, che ne so, Nicolas Cage sul personaggio che fa Nicolas Cage perché è Nicolas Cage, però poi quando Nicolas Cage viene dato a Pasquale Anselmo qui in Italia, Pasquale Anselmo si deve immaginare Nicolas Cage che sta facendo quella cosa in quel punto, in quel modo. Però non è la stessa cosa se tu Nicolas Cage non lo vedi che fa quella cosa, capisci? Qualsiasi doppiatore, questo è un po', è un in qualche modo un po' una tara dei doppiatori. Tu immagina, questo risale un po' alla notte dei tempi del mio mestiere, quando magari io ero così alle prime armi e magari viene il doppiatore di, che ne so, l'attore X, non facciamo i nomi perché sennò sembra una cosa brutta, insomma. Però viene il doppiatore X, oh, mamma mia, ma lui ha doppiato questo qui, ha doppiato quello lì, ma è una grandissima voce, incredibile, cioè io sono al cospetto di un grandissimo professionista. E poi magari lo metti a fare la prima scemenza che mi viene in mente, la narrazione del documentario, e tutti dici, ma che gli hanno fatto, che si è rotto, cioè, nel frattempo mentre veniva qui, cioè, com'è possibile che una voce brutto, così brava, così che su quella faccia funziona così bene, poi lo metti a fare un'altra cosa su un personaggio che non c'è e non funziona bene. E questo è il problema: quando l'attore in video manca, il doppiatore che deve sostanzialmente replicare quello che vede l'attore, quello che sta facendo l'attore in video, quando manca quel raccordo lì, l'attore italiano diventa diventa uno che gira con una candela al buio, capisci? Magari la strada la trova, però non è detto che la trovi benissimo, capito? Ogni tanto va a sbattere da qualche parte, per forza, che sta la candela al buio. Per cui questo è il discorso che faccio io, capito? Quindi anche il grande nome sul videogioco non ti fa, capito, la qualità, se alla base manca un qualche tipo di raccordo che lega la grande voce alla grande faccia, capisci cosa? Beh, mi ricordo Luca Ward in Splinter Cell, ad esempio, che sì, è sì. Luca Ward, grande voce, quello che te pare, però comunque lo senti che c'è qualcosa che... Beh, poi da quel punto di vista, insomma, sicuramente Ubisoft si è molto stata forse anche una delle prime case che ha in qualche modo cercato di rendere comunque le cose più facili. Sarà comunque anche il fatto che comunque è una casa che ha tante sedi in tanti paesi anche europei, per cui sicuramente, ecco, loro sono molto sensibili da quel punto di vista nell'offrire comunque del materiale adatto per le persone che poi ci devono andare a lavorare. Il problema però, ragazzi, cioè, è sempre il solito discorso, e purtroppo in questo tutte le grandi major cinematografiche, televisive, il discorso sta sempre nel fatto dell'aver paura che quel materiale che tu vai a dare poi va a finire su YouTube, su... Vabbè, certo. Per cui stanno sempre un po' così avvelenati da sto punto di vista nel dare cose. Se voi magari questa cosa non la immaginate neppure, però provate a chiedere a un qualunque doppiatore, per dire, che ha doppiato Guerre Stellari o quei film Marvel, le cose del genere, su come razza, che razza di materiale, sì, questo l'ho sentito dire, che i materiali che arrivano da Disney sono ma non solo da Disney, Simo, cioè arrivano da dovunque, nel senso, arrivano scene con un velo verde su e con dei buchi, con delle bocche che parlano dentro i buchi, capito? Tipo Glory Hole, capito? Adesso per fare un... Che poi così non mi serve a cazzo. Brutto accostamento. Glory Hole. Una persona in quel modo lì, capisci? Non è possibile. Lo so, infatti siamo capiti. Credo che abbiano anche modificato proprio anche sceneggiature e quant'altro, che abbiano dato parti, diciamo, che in modo che gli attori stessi non potessero davvero capire quello che stavano dicendo, in che contesto era stato detto. Cioè proprio... Sì, questo, vabbè, lo fanno anche sul set, non solo in sala. Proprio per evitare leak, per evitare situazioni. Sì, ma a volte girano più volte la stessa scena in contesti diversi, girano finali diversi, girano cose assolutamente per forza, insomma, dal punto di vista, da questo punto di vista non... Così non lavorare posso, diventa ma... complicato, in generale. Però poi, esatto, poi nel momento in cui questa cosa varca, diciamo, i confini del paese di origine per poi andare a finire in un altro paese dove non hanno la minima idea di quello che sta succedendo, poi lavorare in quel modo è sempre un dolorosissimo proprio. Comunque, quindi ragazzi, il problema è che ci sono troppi anelli nella catena, per chiudere. Troppi anelli nella catena e alcuni di questi anelli sono un po' così poco chiari. Per questo, però ti ripeto, cioè io sono molto, se me lo chiedi, diciamo, sono molto fiducioso che da questo punto di vista il doppiaggio in italiano sui videogame sarà sempre migliore. E questa è una cosa che probabilmente 10 anni fa non avrei mai pensato neppure, perché i miei amici, diciamo, di vecchia data, videogiocatori che mi conoscono, sanno quanto io ero cacacazzi riguardo alla localizzazione italiana dei videogiochi. Io non sopportavo, eri cacacazzi per forza, io non sopportavo la localizzazione italiana dei videogiochi. Io i giochi li compravo in inglese per non sentirli in italiano, ragazzi, figuriamoci. Ti ricordi Everybody's Gone to the Rapture, là, come cazzo si chiamava quel gioco? Certo, sì, quello è stato una grande, quello fu un esercizio di stile dal punto di vista del doppiaggio, anche perché lì non c'erano elementi footage o niente, cioè non c'erano manche i personaggi addirittura. No, infatti lì, diciamo che quell'opera lì ha fatto il giro proprio, cioè come si dice, proprio è passata appunto da... Quello è stato un grande doppiaggio. Il giro, perché lì è stato quasi una mosca, non so, bianca, di quasi una pièce teatrale proprio, per chi ci ha lavorato. Ci ha lavorato anche Chiara Colizzi, che è una che salutiamo, una grande amica, esatto, e salutiamo, con cui ho lavorato tantissimi anni. E lei mi diceva che comunque sia lì, loro avevano delle, ovviamente delle specifiche, delle cose da seguire, però quella è stata veramente un'opera quasi di pancia da fare, ed è stato bello, bellissimo, bello, per certi bello, versi, veramente, sì. Capolavoro quello. Vai. Allora, però diciamo, ecco, si chiama Passione Sound Design, quindi parliamo di sound design. Sul sound design. Allora, io ho un po' di informazioni che ho raccolto sul sound design di The Last of Us 2, che, come vi dicevo, è di fatto, possiamo definirla, insomma, tecnicamente e artisticamente l'opera più costosa e più spettacolare dal punto di vista sonoro che si possa ascoltare nella passata generazione di console. Adesso vediamo quanto questa PlayStation 5 con questo nuovo chip audio ci stupirà nel momento in cui cominceranno a uscire, soprattutto nel momento in cui cominceranno a lavorarci appunto gente col manico come Naughty Dog, sicuramente. Allora, innanzitutto, ecco, il nuovo lead, diciamo del nuovo leader in qualche modo del comparto audio, che sul primo era un'altra persona, si chiama Phil Kovacs, era il lead designer sonoro di The Last of Us 1. Questo altro signore che invece ci ha stupito, insomma, per la sua bravura, si chiama Bo Anthony Jimenez o Jimenez, non so bene, e praticamente appunto lui ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro arricchendo quello che era già stato fatto in modo magistrale, sicuramente possiamo dire, da Kovacs e i suoi, ovviamente, e lo staff che lavorava con lui dal punto di vista dell'audio. E ovviamente sono partiti dalla base che io posso definire, che comunque siamo nel nostro ambito, se non lo possiamo definire artigianale, che era quella appunto del sound design, diciamo di tutte le creature, no, che si susseguono all'interno del gioco. Una cosa che avete sicuramente ascoltato all'interno della puntata di Passione Sound Design dedicata a The Last of Us, che non sono stati utilizzati su, diciamo, alcune creature in particolare, dei suoni di animali o dei suoni in qualche modo mostruosi, diciamo, provenienti da librerie di magari fantascienza o queste cose qui. Il sound design, in particolare dei clicker, che è, diciamo, quello che sicuramente è in qualche modo un po', possiamo definire un po' la firma, no, sonora del primo capitolo, questo ticchettio che quando lo sentivi ti si raggelava il sangue, perché lì capivi che, cioè, qualunque cosa stavi facendo dovevi fermarti, accucciarti e capire dove cacchio stavano questi cosi malefici. Quel click lì sono stati registrati degli schiocchi di saliva e dei suoni gutturali da parte, insomma, di anche dell'audio team stesso, insomma, hanno realizzato questa sorta di gorgogli che poi, ovviamente, mixandoli uno con l'altro, hanno dato vita a questa sorta di richiamo di questi clicker. Un po' come se faceva un tempo, praticamente, nelle come sale di sonorizzazione. Esatto, sì. Diciamo che nel mio lavoro, oggi come oggi, è difficile uscire fuori con il boom o con la testa sonora per andare a registrare scenari sonori. Adesso ci sono librerie sonore, certo, che, insomma, fanno tutto, che hanno tutto di cui tu possa aver bisogno. Poi la tua bravura sta nel prendere un suono, prenderne un altro, creare delle cose, cioè prendere anche dei suoni assolutamente estemporanei e crearci qualcosa che tu in qualche modo focalizzi nella tua mente, ma che di fatto non esiste. Cioè un suono di uno dei mostri di questi che tirano le spore non esiste, però tu, miscelando determinati suoni anche totalmente fuori contesto l'uno con l'altro, tu crei in qualche modo quel sapore lì. Certo. E in particolar modo, ecco, parlando proprio di questi mostroni che esplodono, che tirano le spore, mi ha fatto molto così piacere, diciamo, mi ha dato così, mi ha molto stupito il modo in cui sono stati realizzati questi, diciamo, queste spore che vengono lanciate e che poi scoppiano e creano quella sorta di suono carnoso. Hanno usato praticamente, vabbè, a parte il vecchio trucco di sbriciolare frutta, verdura, zucchine, patate, carote, insalata e quant'altro, che è una cosa che si utilizza fin dai tempi di Mortal Kombat, proprio non, diciamo, un vecchio trucco per creare in qualche modo lo splat organico, proprio la rottura delle ossa, certo, quell'immaginario lì. Diciamo, hanno riempito, che ne so, di omogeneizzato o di gelato i soffioni, quelli che si usano per accendere il fuoco, per soffiare sul fuoco, no? Che sembrano tipo delle fisarmoniche fatte nella maggior parte dei casi. Ah, sì, ho capito. Di quelli, pelle. Quelli per alimentare, quindi, il fuoco. Esatto, creando questo suono di questa specie di, non so, diarrea praticamente spremuta, capito? A forza. E quindi, ecco, hanno creato questo suono in modo così, è molto, appunto, artigianale proprio. Bello vedere quanta artigianalità c'è. Sì, ma infatti è pure è bello ritornare un po' alla sonorizzazione. Sì, assolutamente. Beh, ma stesso come gli scenari stessi proprio dicevano che comunque sia sono andati a registrare dentro delle miniere abbandonate, dentro dei palazzi abbandonati, all'interno di campagne, cose. Hanno fatto comunque dei sopralluoghi in giro per cercare di creare proprio in qualche modo dei paesaggi sonori inediti. E questo adesso, diciamo, il valore aggiunto, fra virgolette, di un gioco è anche creare qualcosa che tu non hai mai visto prima, non hai mai sentito prima, qualcosa di originale, no, se vogliamo. Certo. E anche nel suono tu magari non pensi, nel momento in cui vai a sentire il suono della spora che ti viene addosso oppure il rumore che fanno le spore dentro le stanze, non pensi, ah, vedi, questi hanno usato il soffione. No, però senti qualcosa che potenzialmente non hai sentito prima, la tua testa un po' associa questa novità, no? E quindi ti crea quel senso così di meraviglia, no? Sì, magari anche perché piccolo, però te lo crea, no? Permettimi, secondo me, per quanto le librerie sonore professionali ce ne siano a miliardi e roba del genere, secondo me poi alla fine comunque il suono tende a essere magari vario, infinito, ma standardizzato, no? Nel senso, magari sono sempre... Esatto. Più o meno, esatto, si tende, sì, a utilizzare un po' più o meno sempre le stesse cose, e invece andare a costruirlo un suono crea quell'originalità che probabilmente difficilmente riusciresti ad ottenere. Cioè tu vai a cercare proprio il suono che vuoi, che c'è nella tua testa, capito? Che assolutamente, sì. Beh, questo, diciamo, è sicuramente un passaggio anche costoso. Qui ritorniamo al discorso dei soldi, e questa è una cosa che ovviamente non tutti possono permettersi. Diciamo, perdere tempo, fra virgolette, detto in maniera brutale, per andare a curare in modo così con dovizia la parte audio, c'è comunque, cioè implica comunque dei costi che sono molto alti, cioè comunque tu è come se stessi facendo un gioco da una parte e un gioco dall'altra, facendo, diciamo, creando un qualcosa dal punto di vista audio, non solo dal punto di vista grafico, narrativo e compagnia cantata. È un, sicuramente un processo che implica dei tempi di sviluppo e dei costi di sviluppo di attrezzature, di professionisti che poi dovranno andare a sonorizzare, a missare, eccetera, che è diverso da quello del sound design di un, non solo di un videogioco parlo io parlo di qualunque cosa, che invece utilizzi, diciamo, delle librerie sonore per poter essere sonorizzato, come nella maggior parte delle cose che guardiamo noi, anche magari delle cose più fighe, no? Però magari lì c'è tanta library sonora e poco e niente dal punto di vista, appunto, artigianale, dicevo prima, insomma. E ecco, appunto, un altro trucchetto che hanno sempre usato, sempre per questi, credo si chiamino bloater, una cosa del genere, non mi ricordo, questi che esplodono, magari voi ve lo ricordate. Vabbè, come si chiama? Come si chiamano? Bloater, esatto. E i giubbotti di salvataggio, quelli che trovi negli aerei, che si gonfiano quando tu tiri la cordicella, no? E fanno quella cosa lì. E sostanzialmente quello è quella specie di grunt che hanno loro quando ti vedono e ti caricano. Per cui hanno usato praticamente il suono della bombola di elio che gonfia il giubbotto di salvataggio. Questo sarebbe stato il lavoro che mi sarebbe piaciuto fare. Ma guarda, sì, diciamo, sicuramente il lavoro della ricostruzione di quello che si chiama poi Foley, diciamo, quello che loro chiamano anche in un altro modo, non mi ricordo. Per esempio, ecco, loro chiamano surface awareness tutta la parte relativa a gli impatti e le corse, diciamo, ecco, anche quelle cose lì sono state tutte ricreate da zero. Ad esempio, ecco, le frecce: tu, se tiri la freccia sull'albero fa un suono, se la tiri nella pozzanghera fa un altro suono, se la tiri sul palo fa un altro suono, se la tiri sulla macchina fa un altro suono. E lì loro hanno creato, praticamente hanno tirato delle frecce un po' particolari, ovviamente, con degli oggetti attaccati, delle retine metalliche, dei piccoli aggeggi di plastica attaccati alle frecce, per creare praticamente questa sorta di sapori differenti nel momento, e soprattutto non solo sapori differenti, anche diversificare proprio la freccia 1 dalla freccia 2, dalla freccia 3 che tu tiri, capito? Hanno fatto questo tipo di ragionamento qui, hanno creato proprio dei svariati binari sonori per farti dare, diciamo, questa impressione di moltitudine di sonorità, di realtà, di naturalezza e di realtà, esatto, esatto. Detto bene. Io penso poi sta cosa, Valerio, se Enrico, se percepisce, no, nel gioco, cioè nel senso, come tanti suoni più o meno standardizzati che alla fine sono sempre gli stessi, no? E tu puoi lanciare 10 frecce e fanno sempre tutto lo stesso rumore, piuttosto che averci comunque la sensazione che quella cosa l'hai tirata lì. Si nota, allora, la cosa tra virgolette brutta, secondo me, per chi lavora in questo settore, è che se fanno davvero davvero bene il loro lavoro, tecnicamente non dovresti quasi accorgertene. Assolutamente, esatto. Più lo quindi, senti, cioè, si nota la mancanza, perché quando qualcosa invece non funziona te lo ricordi. Sì, no, è assolutamente questo, vero, esatto. È una cosa che mi rincorre professionalmente da tanti anni, purtroppo, diciamo. Il fatto che, diciamo, il comparto sonoro forse molto più che quello video non perdona, e lì ti accorgi subito che c'è qualcosa che non ha funzionato, per cui sì, sono assolutamente d'accordo. E invece, ecco, parlando un po' di dati, ecco, per quanto riguarda la sonorizzazione di questo gioco, allora, questi hanno registrato ogni movimento, quindi corsa, camminata, corsa da accovacciati, camminata carponi, su 40 superfici diverse, e hanno creato un totale di 2000 asset sonori. Mamma mia. Loro calcola che hanno fatto un parallelismo con quelli di Uncharted 4, che comunque è sicuramente un prodotto di, tra virgolette, recente fra virgolette. Uncharted 4 ne aveva 400 di asset sonori. Adesso vi faccio insomma proprio per capire proprio a livello numerico la, proprio il, come dire, l'evoluzione che c'è stato e sicuramente il lavoro che c'è stato. Che poi per assets provato... tu cioè, intendi singoli file, cioè, assolutamente, così lo specifichiamo meglio. camminata sull'erba, esatto. Corsa sull'erba, sì, camminata, sì, sull'asfalto, corsa sull'asfalto e così via, per tutti i movimenti che devono fare i personaggi, no? Addirittura è stato creato, e questa è molto, molto carina questa cosa, sono stati creati degli asset, dei moveset come li chiamano loro, sonori appositi per gli zainetti, perché lo zaino di Ellie non è lo zaino di Abby e via dicendo, per cui hanno fatto tutta questa cosa qui, per cui insomma da quel punto di vista siamo di fronte sicuramente a un'opera mastodontica proprio, per quanto magari non potevate minimamente accorgervene insomma, di questa cosa, però ve lo sto dicendo ed è effettivamente una cosa mastodontica. Chiudo con una curiosità, che questa è veramente una cosa molto molto carina. Allora, vi ricorderete sicuramente i Serafiti, che è questa tribù, diciamo, di mezzi psicopatici, santoni, no? Sì, che ricordano un po' Far Cry, dai, ricordano un po' Far Cry sta cosa. Esatto. I Serafiti, se vi ricordate bene, questi parlavano con i fischi. Ah, si, sì? Chiamavano dai fischi, e tu dai fischi capivi tutto tranquillo, c'è quello che sta facendo la ronda, oddio m'hanno visto, forse m'hanno visto, oddio m'hanno scoperto, no? Ogni fischio era diciamo accomunato a un richiamo e tra di loro si richiamavano, e magari quando uno non rispondeva capivano che c'era qualcosa che non andava. Allora, i fischi, questa è stata ovviamente una... in qualche modo sicuramente una cabala artistica molto, come dire, su cui hanno puntato molto, questa cosa di creare questa appunto comunità che parlasse con i fischi, e sono partiti diciamo da diverse ispirazioni per cercare di ricreare questi fischi che potessero in qualche modo comunicare queste sensazioni. Quindi sono andati, che ne so, a esplorare fra virgolette insomma l'ambiente dei cacciatori, diciamo tutte le persone che in qualche modo facevano uso di questo tipo di comunicazione, e alla fine diciamo la chiave di volta che poi ha fatto diciamo scegliere quella tipologia di fischio e tutto il resto è scattato guardando un vecchio documentario sull'isola di La Gomera, che è un'isola che sta alle Canarie, un'isola spagnola, dove a quanto pare storicamente negli anni credo 70-60 gli abitanti di questa isola, che è una piccola isola, avevano un linguaggio, un vero linguaggio basato sui fischi, ed è una cosa veramente sorprendente proprio. Se tu voi vedete questo documentario, che poi tra l'altro credo sia anche su YouTube, è assolutamente free, vi accorgete di quanta aderenza anche se di quanta aderenza c'è, ovviamente, sì, certo, però insomma, vedete questi che parlano con i fischi, è incredibile, proprio fantastica. Che poi questa cosa era, però c'è anche un po' su, se ti ricordi, una delle ultime stagioni di The Walking Dead, quando loro incontrano Coso lì, il cattivo, come si chiama, che adesso non mi viene, che poi alla fine diventa insomma un coprotagonista, no, sulla serie con Rick. Così. Ah, Coso parli tu? Negan, bravo. Insomma, certo, quando escono per la prima volta, loro appaiono, loro stanno nascosti nei boschi con questa cosa dei fischi che era molto inquietante. Certo. No? Insomma, un po' la ricorda anche questo, che poi alla fine ci si richiama un po' sempre, no, tra questo tipo di opere qua, insomma. Certo. No, vabbè, ce tenevo perché poi alla fine sembra che una cosa prende spunto dall'altra, ma poi magari sono cose pure occasionali, però puta caso, guarda caso, magari hanno preso spunto entrambe dalla stessa cosa, non lo so, però in qualche potrebbero, so. Assolutamente. Sì, tra l'altro, oltretutto loro hanno, diciamo, una volta individuata questa ispirazione, hanno diciamo ingaggiato dei fischiatori, dei musicisti, però venivano fuori delle melodie troppo regolari, sembravano quasi dei versi di uccelli, e praticamente così che hanno fatto, che il sound designer, questo Jimenez, e la sua assistente, che poi tra l'altro il nonno di questa assistente, di questo tecnico del suono, che è questo sound designer che ha curato l'audio di The Last of Us 2, il nonno di questa assistente era nato e cresciuto a La Gomera, in questa isola spagnola. Vedi. Per cui praticamente insomma hanno ingaggiato poi dei fischiatori professionisti, non musicisti, per fargli fare diciamo quelli che erano i fischi in bella, diciamo, dopo aver creato loro diciamo la base della traccia su cui partire. e per ogni fischio, la cosa questa è carina anche, hanno creato più pattern, nel senso hanno fatto, che ne so, il fischio bello, che ne so, il fischio meno bello, il fischio quello un po' più rauco, il fischio quello un po' più afono, per creare anche lì la moltitudine, certo, delle persone, perché non è che tutti fischiano allo stesso modo. No, no, anzi, già per fischiare ci vuole gente che sa fischiare, che è esatto, cosa, insomma. Per cui ecco, insomma, e vi lascio, diciamo, con questo dato che ci fa molto riflettere sulla potenza sonora di questo gioco, che a quanto sembra, stando alle dichiarazioni appunto di Jimenez, più della metà della memoria del gioco è destinata al comparto audio. Madonna. Io spero che questa puntatina live di Passione Sound Design vi sia piaciuta e insomma, e magari, ci e magari pensate se è il caso di continuare a farne oppure... Esatto. Magari sia quando parleremo di un qualche monografia specifica videoludica, quindi un videogioco in particolare, o magari lasciate messaggi, lo spunto a dare a Carlo, insomma, ora che c'ha il suo studio high tech Hyper Galactic, esatto, insomma, quando è difficile che trova il tempo, ma se trova il tempo, insomma, magari fare nuovi spunti, nuove cose, insomma, perché ad anni di distanza ancora quando trasmettiamo Passione Sound Design c'è sempre qualcuno che gli si appiccia nelle lampadine, ciao ma cazzo, è un programma che ha lasciato il suo, insomma, perché poi le puntate erano brevi, funzionavano e via dicendo, insomma, quindi va buono, ragazzi. Io direi, partendo da Enrico, sei contento della puntata? Sì, assolutamente. Beh, tanto dal punto di vista personale, essere qua su Runtime è un onore. La miseria. Vabbè, ma io e Enrico ci conosciamo da tanti anni. Quindi, insomma, come è capitato, insomma, in questi 10 anni noi abbiamo fatto compagnia a tanti e tanti hanno fatto compagnia a noi. Questo è sempre stato uno scambio equo e bello, perché poi alla fine, insomma, questo è un po' il discorso che ci contraddistingue. Allora, ragazzi, io direi che questa è stata una puntata intensa, perché noi di solito facciamo un'ora e un quarto, un'ora e mezza di puntata, qui sono 2 ore e mezza che stiamo parlando. Sì, è vero. È vero che il tema difficilmente l'avremmo potuto sviscerare in meno tempo, perché chiaramente stiamo parlando di un gioco al quale io sono legato sentimentalmente, proprio cioè sto insieme io a The Last of Us. non vuol dire che mia moglie è un'assassina, sia chiaro, insomma, però è, sì, insomma, è una cosa abbastanza importante per me e penso che lo sia stato anche per voi. Io mi ha fatto piacere la presenza di Enrico, perché ci eravamo sentiti, l'avevamo detto, insomma, di fare questa puntata. Io ho tardato rispetto alla prima volta quando uscì The Last of Us, che la facemmo subito, proprio perché secondo me c'era il tempo di metabolizzazione per una storia più importante rispetto alla precedente, e so che molti non hanno giocato e so che molti non hanno ascoltato questa puntata e se la scaricheranno e la sentiranno probabilmente in podcast a tempo debito, perché purtroppo ancora molti non l'hanno finito, ancora molti l'hanno approcciato con difficoltà. Però mi ha fatto anche piacere la presenza di Valerio, perché prima di approcciarmici io, insomma, un buon pezzo, insomma, qualche ora di The Last of Us me lo sono goduto in sua compagnia, con le sue lucubrazioni, con i suoi pensieri, con le sue riflessioni, che poi alla fine mi sono trovato a condividere più che spesso e più che volentieri, e quindi sono stato contento. Cioè, per me era una cosa naturale chiederlo a lui, sperando, insomma, che sarebbe stato dei nostri. È stato un piacere, assolutamente. E Carlo, perché Carlo, insomma, voglio dire, c'era da dire, insomma, su questo, e poi perché comunque per me ogni volta che Carlo ritorna, come gli ho detto, l'ho fatto notare l'altra volta su Discord, io come avatar c'ho una foto con lui, perché sì, perché noi oramai ci conosciamo da anni, abbiamo creato questo rapporto, poi mo che siamo un po' lontani alla fine si sente, no? Poi alla fine, perché insomma è bello averci comunque queste amicizie che sono nate dal podcast, poi, perché è incredibile, cioè, nel senso, vero io ricordo ancora, sì, quando mi arrivò la mail da sto tizio Carlo Burigana, che poi Burigana, io dico, ma che è un cognome giapponese, mo chissà che cazzo. No, perché ragazzi avete fatto la puntata sul doppiaggio, molto bella, mi piacerebbe, insomma, partecipare, e da lì, insomma, non se n'è più andato. Devi cacciarmi con la scopa. Tipo, no, no, ma io sono contento. Insomma, quindi, in una puntata come questa, dove abbiamo salutato Joel, insomma, è bello. È un po', ci siamo dati tutti quanti un abbraccio davanti al fuoco, ricordando questa bellissima storia. Non so, volete chiudere dicendo un pensierino, una cosa, Enrico? Bah, io chiudo sperando che ci sia un terzo episodio della serie. Addirittura? Sì, infatti volevo chiedere anche a voi come vedete questa cosa. Ci sarà un terzo episodio e secondo voi come potrebbe essere? Con Ellie protagonista oppure qualcun altro? Bella domanda. Io personalmente devo dire la verità, spero di no. Ma proprio come tanti, sì. Lo spero proprio di no, perché secondo me questa storia qui, quindi questo arco narrativo qui, non c'ha più niente da raccontarci, cioè non ci può più raccontare niente. E infatti, tant'è che io, quando avevo sentito le prime notizie della parte 2, di un The Last of Us 2, perché allora non c'aveva neanche una sua definizione, pensavo avrebbe parlato di storie collaterali, collegate, ma non che non avesse parlato poi di Joel e di Ellie. Invece in realtà poi alla fine questa cosa si è verificata. Io personalmente penso che non ci sia più niente da dire. Non so, Valerio. No, io assolutamente mi accodo. Infatti, appena è stata posta la domanda, mi pensavo è stato sì, ci potrebbe essere un seguito del mondo di Ellie e Joel. Sì. Ma immaginare anche solo uno dei protagonisti che non sia il figlio di Dina come protagonista, non ce lo vedo. Ci potrebbe essere qualcosa sul figlio di Dina, secondo me, forse. Quindi futuro, sì, o una storia negli stessi anni, tipo in Europa, nel senso proprio, cioè vediamo qualcosa che non abbiamo mai visto, altri tempi, altri modi. Io penso che nell'ambiente, quindi nell'universo, e anche con magari dei richiami che comunque facciano sorridere il fan, no? Cioè quella cosa che la capisci, no? Quell'ammiccamento, tipo lì c'è passato quel tizio, lì è dove Joel quella volta ha fatto quella sgroppata a cavallo, cose così, allora ci potrebbe avere un senso. Ma se devi raccontare la prosecuzione di una storia che è chiaramente finita, anche perché io non vedo un Ellie sopravvivere ulteriormente a tutto questo, insomma, cioè nel senso, e poi boh, non lo so, cioè quanti anni dovrebbero passare. Guarda, posso immaginare una storia 30 anni, 40 anni dopo, dove lei può apparire così da mezza anziana, capito? E così come cameo, sì, diciamo così. Sì, di passaggio, esatto, proprio. Come se proprio le devo, allora giusto per sapere, vedi, è come quella cosa confortante che tu passi davanti alla casa di una persona che non vedi da tempo, la vedi affacciata e dici, vedi, vabbè, ancora sta bene. Vabbè. Nel caso sicuro che se la vedi mentre muore. Cioè, sicuro. Oppure sul letto di, vabbè, sì, ci può stare. E il tuo pensiero, Carlo? Ah, io come te spero di no, ma temo di sì. Io invece temo che, non lo so, in particolare il finale, diciamo, non tanto di Ellie quanto di Abby, un po' mi fa capire un po' che forse The Last of Us 3 sarà, capito, Ellie e Abby in città combina guai, capito? Quindi però non ci giurerei, perché comunque, ma non ci voglio manco pensare una cosa. Naughty Dog c'ha il manico e probabilmente ha la sensibilità anche di non fare determinate cose, per cui come te, insomma, spero di no anch'io, però no, anche qualcosa mi dice che a volte è bello pensare che una cosa, anche quando quella amarezza, no? Quel dolore della separazione, che è sempre un trauma per chiunque, ma proprio antropologicamente è così. Però a volte è bello sapere che una cosa è finita male, bene, è finita, però è finita. Perché a un certo punto c'è un momento in cui le storie si devono chiudere, insomma, no? È un po' come quando abbiamo saputo del fatto che magari continuavano delle cose che hanno. Cioè, nel senso, c'è un momento in cui bisogna sapere distaccarsi dalle cose. Ma questo è un'opinione nostra, non è che, cioè, nel senso, Enrico, non è che io rispetto, e comunque poi alla fine nel momento in cui ci dovesse essere un terzo capitolo, alla fine comunque restiamo qua, insomma, nel senso, cioè, non c'è mica proprio. Vabbè, io sono d'accordo che la parabola così di Joe Riley sia finita, però questo mondo, questi personaggi, secondo me potrebbe venirci fuori qualcosa di buono, poi chi lo sa. Sì, anche perché però poi alla fine succede un po' come facevamo i ragionamenti con Marco Gualdi, ma penso anche con Carlo qualche volta, quando guardavamo le stagioni di The Walking Dead, una serie che a me comunque è piaciuta fino alla quinta stagione, sesta stagione, proprio a dire tanto. Poi c'è un momento in cui una serie come questa, che non c'ha una fine, cioè non c'è una soluzione, non c'è un traguardo, non c'è un obiettivo, sì, cioè è solo un trascinare in un reiterarsi di situazioni che sono sempre quelle, no? E alla fine arriva il cattivo e tu poi lo spremi di sangue, poi arriva un altro cattivo e tu lo spremi di sangue, e alla fine sti zombie diventano quasi, oh, ci stavamo pure noi, porca puttana, capito? Alla fine, cioè, un po' la sensazione ti rimane quella. Però vabbè, ragazzi, poi dopo, alla fine, come ho detto, cioè, dovesse uscire, non è che io dico, ah, che schifo, non lo guardo, insomma. Vabbè, ragazzi, dai, io direi che abbiamo dato, ho rubato veramente tantissimo tempo, a nome di Runtime, di tutti quanti vi ringrazio Rico Seu, e spero di averti ospite ancora un'altra volta qui su Ludico Forum o su qualsiasi altro programma di Runtime, anche perché gli spunti di cose interessanti ce ne sono sempre, e sarai sempre il benvenuto, tu e ovviamente Codolo e tutti gli altri, quando e come. Ciao e grazie. Grazie. Ciao e grazie. Grazie. Ah, scusa, vai. No, vai, scusami. No, volevo ringraziarti, e beh, per me sarebbe veramente un onore, e spero ancora di fare qualcosa assieme, o qui, o si intrappolati, insomma, qualsiasi parte, sai che io sono sempre disponibile. Tu lancia il sasso, che io, vedi, poi raccolgo, magari ci metto mesi, ma poi raccolgo, insomma, perché poi mi si accavallano le cose, ma io poi trovo spazio per ogni cosa perché mi piace, quindi sono contento. Grazie Valerio. Ciriola Let's Play, Ciriola LP, andate su YouTube, lo cercate, mettete mi piace a tutti i video, condivideteli, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella. Ma ragazzi, guardate che non lo dico perché l'avrei detto comunque sicuramente, però, sì, è ovvio. Okay, però aggiungo anche che lo dico perché lo penso, cioè nel senso, perché io sto lì, cioè, quindi lui lo sa, io commento una volta ogni 40 video, però lo seguo, quindi non c'è un cazzo da fare. Se lo seguo, vuol dire che se capite un po' il mio spirito, vuol dire che vale la pena seguirlo. Troppo buono, grazie. Vabbè, no, lo dico perché lo penso. E Carlo Burigana, ciao Carlo, e mi raccomando, appena vieni giù, sushi e tutto spiano. Certo, assolutamente. Sì. Io t'aspetto al parco. Ringrazio tutti voi, ringrazio voi che siete stati con me questa sera, ringrazio tutti quelli che sono stati con noi e quelli che lo saranno, insomma, quando sentiranno la puntata in differita. Grazie veramente, insomma, di avermi dato anche questa volta la possibilità di raccontare un po', diciamo, qualche cosettina del mio lavoro, che mi piace sempre. Benissimo. Allora ragazzi, vi ricordo che domani dalle 9 alle 20 Runtime Radio trasmette le repliche di tutti i podcast, come al solito, nella nostra web radio, a distanza di slot di 2 ore, i vari programmi, anche quelli storici, quindi tutte quelle cose che avete ascoltato anche qualche anno fa, che ancora magari sono riascoltabili e fanno parte della storia del podcasting, quindi potete sentirli sulla nostra web radio. E poi domani sera, ore 23:30, Runtime by Night, e andremo avanti, insomma, tutta quanta la notte, no, due ore e mezza, perché poi dopo facciamo sonno, però ci sarà forse un ospite in studio, quindi una cosa, però non possiamo dire niente. E per Ludico Forum invece venerdì prossimo, sempre alle 21, parleremo di videogiochi, pensate, una cosa nuova, aspettate che mi sono scordato di che cosa parleremo. Ah, forse parleremo della serie televisiva di Netflix, e vedi perché, appunto, dicevo prima a Valerio, quella sulla storia dei videogiochi, che è un'opera un po' controversa, un'opera un po' tanto controversa e anche molto approssimativa, ovviamente con Carlo Burigana, storico del videogame e con il quale facciamo archeologia videoludica, archeologia informatica oramai da anni, e quindi insomma è un argomento che ci tocca particolarmente. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, buonanotte a tutti quanti. Ciao. Buonanotte. Ragazzi, ciao a tutti. Buonanotte, ciao. Thank you. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.